va bene. Si è sentito Marco? No, non l'ho ancora sentito Marco io. Di solito accende verso le 5, le 6 di sera, capito? Aspetta che rientro subito. Aspetta, sono ancora a casa. Crede su Over Revival, cambio! Musica brutta. Ah, se non ti piacciono i Creedence? No, no. Meglio le canzoni quelle belle, la discoteca degli anni 80. Un po' di rock and roll dopo pranzo fa sempre bene. Già lo credo. Già lo credo, giallo. Allora, usare il segnale sempre qua vicino. Perché stai tutto fischiando? È il microfono del pezzo. Ah, ok, adesso no. Dai, sono. Adesso sto usando questa delta. Ciucchi ciù, non fischia più. Scambio, senti questa modulazione. Bella, corposa, limpida. Aspetta tu. E dove sei? Qua. Qui. Che via è questa? Dove c'è, diciamo, molte lettere? Alla casa mai carabinieri, dai. Sì, c'è molte lettere quello, anzi la chiamavano così, adesso siamo serrato. Casa mai caramba adesso? Sì, già ti sento. Qua. Attenzione Marco, rata pignata. Cambio, sarai sicuramente in macchina. Quella ancora nanna. No, ci ho parlato adesso, sta venendo lì. Al telefono ci hai parlato. Sta venendo lì sotto casa tua, ci deve incontrare lì. Ho capito. L'audio sta cambiando. Vabbè, sparvie, adesso ti brucio tutte le antenne. Adesso te le sbuccio. Siete tu, io farei il parametro giù su. E io sto scendendo. Cos'è? Prova a parlare più lungo. Un al semaforo. D'accordo. Ma com'è? Guarda un po', guarda un po' questa modulazione. Se è come prima, è cambiato qualcosa, cambio, 1, 2, 3, cambio. Già, va bene, adesso prova l'altro microfono, quello del Taggi. Aspetta che mi fermo, vai, mi fermo e lo cambio. Va bene. Antonello, questo è ZG, come mi ha dato Marco. Guarda un po' come fa, com'è di modulazione. Più forte di radio, sì. Si sente anche la musica adesso. Ah, questo è più forte di radio. E più acuticiante. Già va bene comunque, sia uno sia l'altro. Ma l'altro c'ha anche un po' di eco. L'altro sì, c'ha l'eco. E ora qua ci sono due... Così è. Eia. Cosa dici tu? Quale vuoi lasciare? Ah, per me vanno bene tutti e due, mi. Come vuoi tu? Quello appunto lascerei. Lascia il taggio adesso, va. Al limite l'altro tu lo lasci a casa. Lo usi per casa le cose. Quello c'ha l'eco. Allora dici che è meglio questo, vai. Eia. Parla di centimetri minimo dal microfono. 10 centimetri sono, forse anche qualcosa di più, capito? Sei bello squillante, Mario, sei perfetto. Ma si porta dietro i numeri del furgone, no? No, assolutamente. E allora va bene questo, vai. A voi, un attimo il telefono. Eia, è più squillante questa, Sono Marco, sono qua da Pomponio. È più squillante, più acuta. Quindi Marco dici lasciare questa? E naturalmente quando entreranno tutti, fai il confronto, chiedi i controlli a tutti, perché i baracchini sono tutti diversi. Claudio, ci sei all'ascolto? Ancora dormendo sei? Ma hai attivato il bip di questo microfono? No, devi spostare la levetta a destra, la levetta la devi spostare a destra. L'ho spostata. Ecco, adesso hai tre bip, due del microfono e uno dell'apparato. Cambio, Marco, guarda questa modulazione, guarda quanto è bella, Marco, senti. E dove sei arrivato? Vediamo il segnale, fai vedere un po'. Sono a Città Mercato, capito? Altezza Città Mercato. Ehi, allora sei attaccato ancora. Buono, ok. Come esco da Pomponio qua? È un bel forte, Marco. Un sacco forte. Claudio, aiuto Claudio, scendati. Attenzione, Claudio Sparviero, cambio. Marco. Dimmi tutto. Sono passato i punti, com'è? Sempre di lusso. Ho chiamato Claudio, mi sempre staccato. Te l'ho detto che c'è il cellulare spento. Dici a me che dormo. Comunque ha una bella tonalità, quello, lo ZG. Sembra che tu sia a casa con l'altro apparato, come si chiama quello di casa? Il Galaxy Uranus. E via. Devo parlare piano perché qua c'è una persona che dorme. Ma nella stanza dove c'è i baracchini? E via, c'è la nipote che dorme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bello questo microfono, sa delta, è molto molto bello. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco qua. Chi c'è all'ascolto in questo canale? A parte Eugenio, chi c'è all'ascolto? Io, qualsiasi persona all'ascolto, dia un controllo di radio. Tutti morti. Tutti all'ascolto e nessuno vuole parlare. Vabbè che è presto, eh. Vabbè dai, vuol dire che le prove le farai in seguito, visto che a quest'ora sono tutti a dito nel sedere, dai. Ehi Marco, comunque il segnale va bene, sì, passato San Giovanni, mi sto accingendo a scendere nel discesore di San Giovanni. ha voglia, qua non c'è il problema. Qua fino a Porto Torres va tutto liscio. Ma il segnale il 5 l'ho perso di Santiago? Sì, sì, oltre il 9 mi pare. Addirittura, e cosa sono troppo forte, e sono troppo bene, non hai capito, ma giù faccio di pianto, scusate, cosa dico? Via. Bene, adesso lascio il trono a Pomponio e io vado via, dai. Rientro a casa, ok, dai. Ripeto, fai molte prove, chiedi molti controlli e fai il paragone tra l'uno e l'altro, ok? Ciao G, io vado a casa, ti lascio in compagnia di Pomponius. Grazie Marco, grazie di nuovo e grazie di nuovo, già ci sentiamo, ciao! Via. Ciao ciao! Riceve bene, così gli dai un controllo anche con quello e vedi quale dei due microfoni senti meglio. Quando entra è il mio parere, ma se secondo te andava bene già dovrebbe essere così. Sai cos'è? Ero col baracchino e Pomponi a casa sua, è diverso dal mio, quindi non so valutare. Natalino, ci sei all'ascolto? Sì, l'ho chiamato anch'io, ma non mi ha risposto. Attenzione Natalino. Tu cosa stai usando? Il 3009 con mic normale. E te le immagini, gli ho detto, beh, con l'apparato ce l'hai? Ho detto, sì, devo solo decidere il prezzo. Ah, vabbè, non fa niente, mi ha scritto. Ma davvero creva che lo regalavo? Mica non sono la troia di turno mi a regalare tutto. vabbè. Io l'ho detto scherzando, io regalo tutto. Ah. Non per niente, quello scanner era anche la banda laterale e quindi costava, che io ricordi, 350 euro. E cosa vuoi che te lo regali a gratis? Anche una cifra simbolica va bene, tipo 50 euro, ma non è che lo posso regalare. E tu diavolo, ma l'ho preso per la Banca d'Italia. Ma cos'è un base, un veicolare o un portatile? Portatile, Yaesu VR500, portatile 01-1003 con ricezione MFM, bande laterali e CV. C'è anche le bande laterali e CV. Avanti il VCVD. Prima non me l'ha fatto. No, se fosse un veicolare, diciamo, base, mi sarebbe piaciuto, ma te l'avrei preso io. Vale, mi sembra Giuseppe, cosa vuol? Ecco, ho preso il telefono. Perché come esco, Claudio, con questo, con mic normale, come esco? Bene. Praticamente ho visto l'apparato di Eugenio, è uguale a questo, si chiama Super Star 3009, non attaccato Superstar, Super Star 3009, è lo stesso apparato che ho io qua adesso, uguale, e posso dire che è un bel apparato. E certo che è un bel apparato. Adesso preparo la macchina. E beh, Mimi. Cos'è che stai provando? Sto facendo la foto al portatile, al ricevitore. Ehi, ehi. Fra poco arriva, eh? Sì, sono qua. Eccolo. È un portatile. Vedi, dovrebbe essere quasi arrivato. Sì, lo conosco. C'è anche il ricettasmettitore di questo. Uguale, preciso identico a questo. C'è una tastiera, piccolo così. Sì. Sì, è vero. È vero, c'è un ricettasmettitore che ha praticamente la stessa forma. Può essere l'FT60B, non me lo ricordo. Comunque sì, è una forma classica. È già di un po' di anni fa questo, Non so se lo vendano nemmeno più. Però vedi, alle bande laterali io andavo in macchina Pro Torres, giovedì, per le bancarelle, andavo vicino a casa di Sandro, mettevo l'antenna tarata proprio per i 7 MHz, per i 40 metri, e mettevo l'attenuatore e riuscivo a ricevere, perché senza attenuatore si porta dentro un bel di roba in HF, capito? Invece in VU è un normale ricevitore, capito? E riceve volendo anche la banda laterale, no? In VHF, in UHF, dove vuoi tu? AM, FM, USB, LSB, CV. Sì, ce lo fanno, lo fanno. Lo fanno. Purtroppo la batteria è andata. Cosa vuoi di voce? Allora, gli ho caricato due batterie ricaricabili da 2100, appena caricate sono già morte, non funzionano più, non caricano più, infatti c'è le lampole alla mondezza, ce le butto, non vanno bene, ecco perché devo lasciare ferme con le batterie stilo, sono una gagada, sono quelle di Auchan, quelle ricaricabili di Auchan, marcate Auchan, sono una gagada proprio. I portatili se non li usi io, appunto si rovinano, capito? Cioè, mi è stato farli scaricare del tutto e poi ricaricarli bene. No, ma quelle batterie stilo sono nate male, sono durate pochi giorni e sono interrotte. To, mi, senti il ciocco, le butto a terra, to, ce le lampo a terra, to, una e due, ecco, affanculo. Non ce la vuoi, invece sono buone, sai quali ricaricabili? Quelle di Lidl che sono marcate Green Power o roba del genere, quelle sono buone, ne ho un bel che funzionano veramente bene. Se mi è piaciuto l'Atalino, devo decidere il prezzo. Ah no, non fa niente. Io ho detto Natalino. Sì, siccome era interessato, no? Ho detto sì, sto programmando i canali e devo decidere il prezzo. Ah, mi aveva scritto, ah no, non fa niente. Grazie, se lo volevo. Natalino, riprendi, ci sei. Natalino, guarda che io stavo scherzando quando ho detto te lo regalo. Io non è che posso regalare roba a tutti, no. Roba a tutti quanti, no. Non sono la Banca d'Italia. Io ho detto una cifra simbolica, anche 50 euro andavano bene. Ma quale ricevitore, Natalino? Ci sono in vendita, non so chi è che lo sta parlando, quello OR, non so se la OR 2000, la OR 3000, lo fanno molto bene. Io non vi ho seguito nel discorso. Ieri ho sentito Marco appunto che stava regalo, ma già ho capito che stava scherzando. E niente, poi non so cosa sia successo. No, mi sta venendo video. Devo prestare, c'è una manifestazione, il portatile suo non funziona. Sto dando il mio box. Sino a lunedì, capito? Di martedì siamo 3-4 giorni. No, non mi interessano queste cose, io non. Se devo dare una cosa, la do, lo dico e la do. Se sto scherzando, lo dico, sto scherzando. Non è che penso non sia successo niente, ma quando deve regalare le cose già le regala. Ma ieri già me ne sono accorto che stava scherzando. Vabbè dai, vuol dire rimane qua, avevo già bello pulito, c'avevo tutto, vabbè rimane qua dai, vuol dire che ne ho due, continuerò a usarlo come lo usavo prima. Ma ne hai due di quei ricevitori? Allora, uno è un Uniden, ricevitore Uniden portatile, che uso sempre. Questo invece è l'altro portatile con le bande laterali. Poi ho questo veicolare da tavolo, che questo è a fianco al baracchino. Veicolare da tavolo, sempre ricevitore? Sì, ricevitore, si chiama Uniden 355, Uniden Birkat 355, però sono sempre cose banali, certo non sono a OR, ma gli OR costano 800 euro, stiamo scherzando, 1.600.000 lire. Ce n'era una vendita, adesso non ricordo, chi te lo stava vendendo, addirittura non l'ha proposto, non me lo ricordo, spacchi la testa, non me lo ricordo. Detto no, ho proposto se facevo cambio con un veicolare 2U, anche lì di vecchia generazione, ma io VU, dice trasmettitori VU, non ero più a nessuno, a meno che non siano radioamatori, perché poi succede casino, è la colpa la mia, quindi non ero più a nessuno, né HF, né niente, nulla, non prenderò più niente, non me la sassali, né di 140, né di 440, né di 430, né niente. Nessun VHF, nessun UHF, ma non che non siamo radioamatori. Allora, posso fare tutto quello che serve, se ne ho, capito? Se ne ho. Se no, niente. Io ho un 756, bellissimo. Io avevo preso l'altro, il 2. Nuovissimo, nuovo, che lo uso tra l'altro, che è sempre acceso, sempre in ricezione, anche in trasmissione, lo faccio andare, non lo vuole nessuno se non è l'aeroporto. sei andato alla GBC, ti sei mosso, hai visto se c'è, non c'è. Natalia, mi rispondo, ti ho fatto un daio me. Buona sapersi. Natalia, insomma, allora per colpa tua non c'è Natalia, no? Vabbè, ma se uno è permaloso, ma io se dico regalo regalo, non è che regalo tutto, no, però sto scherzando, era chiaro a tutti, anche a te. E poi avrei chiesto 50 euro, una cifra simbolica, costa 350 euro quel portatile lì, quel ricevitore lì. E Natalino non vi ha neanche detto che, a parte quello che gli ho dato a lui, gli ho regalato anche un altro, il gianello, per usarlo a parte di ricambio, non ve l'ha detto quello, no? Cioè uno l'ha pagato, l'altro gliel'ho regalato, il gemello dell'Omega Force, il gemello minore, quello non l'ha detto però. Che cosa? Di cosa stai parlando? Tu sei un istigatore. Ho detto, ma mi stai capendo oggi Claudio? Io gli ho venduto un apparato, però a parte vendergli quell'apparato, gli ho dato il gemello minore al regalo. Ecco, questa è la risposta, questa è il ringraziamento. Vabbè, se l'hanno affrontata ne ha fatto una polemica. Io ti ripeto, non ho seguito niente, non so niente. Però, mi ha tutto. E poi, come gli altri, si arriva sempre alle stronzate. Ma Eugenio lo fai che voglio sentire la modulazione. Era venuto nel pomeriggio e poi è tornato a Sassari, ma è tornato a Polo Torres e ha detto che sarebbe entrato più tardi, non si sa a che ora, però era giusto per sentire questo microfono. Ma praticamente cosa gli hai dato? Gli hai dato il ZG a provare, oppure l'avete provato lì e basta? No, gli ho dato la ZG da farmo da provare, ho detto provatelo quanto vuoi, poi vedrà se prenderselo uguale, se va bene, o se tenersi l'altro, il DM1000, e poi gli ha fatto non so quale modifica, esce bene secondo lui, io non lo so perché, non so che modifica ha fatto. La modifica che ha fatto, dalla voce di Antonello ci va bene ieri, c'è anche Natalino, non ci va bene, chiara la modulazione, non era cupa, non era, capito, usciva bene, poi bisogna vedere con Eugenio com'è, cosaccio. Natalino, perché mi rispondi così a Dio Claudio? Ti ho detto, sei andato alla GBC, hai visto se c'è l'antenna? Non ho capito cos'è che è successo. Devi smontare, dai, io a fine mira. Aspetta un attimo, c'è il telefono con un collega. Come? Aspetta che sono al telefono con un collega. Seia. Marco, un attimino che sto scendendo giù che c'è Elio. Ok, arrivo subito. Capito? Natalino, sono Marco, aspetta. Non ho capito niente. Un attimino che torno subito, re. Seia, fai, ho messo a posto un barattino, fai, c'è proprio. Sì, guarda che c'è Elio, Natalino, sto arrivando subito. Seia, sono tu a tutti, stai sentiti. Io ho uno vecchio, il come si chiama, il Galaxy Plus, e un anno ce l'avevo, ho cambiato un transistor, cioè sono arrivato a prima acchito, sto scendo di radio e sono in partenza, meno male, già finora, adesso non so mettere registrare di fatti e roba del genere, cavalaba. Allora, vediamo un po'. Dunque. Allora, così, ecco, cioè, sta uscendo la stessa. Cucu. Chi è, chi è? Allora, ci sta volando. funziona anche altrove. Sì che già funziona, c'è l'FM. Ora, ora, perfetto. Ok. E già, presenta lì. Che l'ho messa con piscio, cazzo. Quello è staccato fatto il transistor lì e ci ho messo questo per dare tutto a funzionare. Si è fatto bene. E Eugenio non c'è in frequenza. No, non ho sentito Eugenio, aspetta, cosa hai detto la tarita, non ti ho capito. E io vabbè, non c'è problema, al limite se non ce la fare domani sera, mi siedo la parita presso e così ti ho regolato direttamente a casa tua. Una volta che ho regolato poi me lo salgo su e ti metto le vite e lo consegno a Tonino. Così faccio la lidina. Se poi quello là non lo vuole più, la parita lo vendo. Una cinquantina di euro. Già va bene come pezzo. Ti compri un pollo arrosto con le patate e te li do io i cacciaviti induttivi, capito? Capito mi hai? Poi a Natalino, boh, non so, le puoi comprare se vuoi cacciaviti induttivi. Natalino, cosa ti dovremmo comprare? Buonasera a tutti, dai, ero Giulio, ero Comedio. Ciao Gianni, ma sì non ti accoppio, dove sei Gianni? Gianni, dove sei? Non era Gianni quello che stava a parlare. Ma non abita a Massa, a casa sua Gianni. Avanti Gianni. No, basso del radio, forse lontano dal microfono e quel cazzo. Gianni. Se lo sei dormito. Tu, a te che ha mangiato il cane. Che lo fulisco. Dai, riprendete che sono qua. Cava, cava, già siamo qua. Marco. Ma anche Marco sbaglio. Cava, cava. Per carità di Dio. Questa voce allucinante, cara. Attento Valerio, a tavolo con Maeglia. Come dice un Valerio, c'è tutti molti giorni. Ieri c'erano, oggi no. Oggi sì, oggi no, oggi sì, oggi no. Va bene, mi sto mettendo nuovo quel vento, quel vento freddo, maledetto, sono sceso giù in camicia, ma mi sono più cancarato, cara. Io sono uscito con Marco stasera, c'è a caldo la verità. Stasera presto, verso le 2:30. Poi tu eri a letto, evidentemente abbiamo telefonato un paio di volte per fare le prove. Io invece evidentemente avevo il telefono spento e a letto. Magari sta facendo ciucucciù. No, Antonio, mi sveglio tutte le mattine alle 5:15. Mi alzo con calma, mi lavo, faccio tutto un attimo, mi preparo, alle 6:15 sto uscendo e rientro, tra viaggio e tutto arrivo a casa che sono le 2:30, 3:20. Quindi se non stacco il telefono almeno un'oretta e mi faccio un riposino, ma nel divano mi così, sdraiato il divano, però mi trovo, capito? Infatti alle 5 ho già in radio, mi c'è Natalino. Perché sennò mi chiamano anche i colleghi a rompere scatole, qui e là, mi aveva chiamato anche io, dove si arriva questo portatile, e quindi ho visto la chiamata e poi mi ha richiamato, però lo dovevo fare, insomma, sennò alle 9 sono già addormentato, capito? Allora, per resistere un po' cerco di rifare un riposino pomeridiano, capito? Attento Gianni, doppio root, Gianni, io magari non te ne compreso. No, io non l'ho sentito né oggi, io ieri sì, ti ricordi Natalì che stava facendo la messa, Antonello, però la modulazione era buona, gliel'abbiamo dati già, lui controlli, quindi non è che ci ambava nulla. Ma Antonello lo sai che lui è, come si dice? Aspetta, lo segniamo il bacchino. Aspetta un attimo che devo attaccare una cosettina. Poi già riprendo subito. Io c'ho poco giuro sì, perché lui non ascolta, capito? Non ascolta, poi se gli dice le cose si dimentica, ma ti ho mandato un numero di telefono, due lì me l'ha mandato alle mani. Beh, non te l'ho mandato. Il bello bello che me l'hai mandato, sì che me l'hai mandato, capito? Ti me l'hai mandato, bello bello, non ti preoccupare, kappa. Va bene. Ma Gianni, la Loretta mi dice che aiuto. Gianni, doppio root. Ho il telefono. Sono andato in bagno. E la voce era un po' assonnato, la verità è ciniglia. Capito? Non c'è di nuovo addormentato. E anche lui fa orari, mamma mia. Orari da arrivare 3 a casa, si ha tappeto, a portare il cane, a fare. Io come sto? Attenzione Alghero, Sassari chiama Alghero, pronto? Non mette che lo titano, ti va via. lì. Pronto? Poverino che ha letto. Carletto, proprio quelli che animavano, che stavano sempre in radio, Carlo, Giampaolo. La vita continua. La vita continua. Attento, l'uomo della bassa valle, Gianni, sveglia. E poi chi c'era in questo canile? Antonio, chi c'è? C'era Marco, fatto. Ho preso un cacciavite di quindi raccolto e l'ho fatto certificati. Se mi chiede 0035 adesso forse è solo un zero, telefono a Tonino e gli lo do. Aspetta un attimo. Sì, vabbè, noi già siamo vicini, quando fanno salire a Natalino. Se ti serviva lo richiedevi e te lavo io. Ce li ho cacciaviti tutti io. Gli aveva regalati Sandro Tigre, Tigre contro Tigre. E non ricordavo di avere quelli dei cacciaviti che aveva lasciato Giampiero in un coso. Aspetta che lo chiedo l'apparecchio. Ma non vedi che hai finito l'apparecchio di Marchisio? Uguale a quello di Marchisio, il Galaxy Plusio, preciso. Non è il Marchisio questo, è di un tipo che gli ha dato a Tonino al GBC, l'hanno fatto. Figurati quanto ci avevano qui buttato questo apparecchio. Non riusciva a trovare i pezzi, finché piano piano non mi ha dato un apparecchio, che un 3009, là lì si è cacato il pezzo che mi interessava, l'ho pensato, perfetto adesso, mi fa poco lo provo di radio, questo lo faccio sentire. Gava, siamo qua, quindi Tatarì, hai deciso, questi giamma dei matter, meglio se veni, leggera quarantena, leggera ma è una bomba, chissà, fermo mi dai, abbiamo uscito fuori, mi dai, abbiamo lasciato dentro, santo spara quarantena. E allora che problemi c'è? Siamo a cavallo, ce ne importa la staff, mi stamattina a proposito, mi sono dimenticato di dirtelo. Stamattina ho visto quello che appunto gestisce l'officina nostra, mi ha detto ci dovrebbe essere una scala, capito? Fatti andare a vederla, domani così giovedì, domani andiamo a vedere quanti metri è e come si può trasportare. E intanto sabato ci facciamo il sopralluogo, così sappiamo cosa dobbiamo fare. Sabato a Marzano, diciamo, capito? Ci faccio per loro, quindi siamo chiari, sappiamo quello che c'è da fare, quello che c'è da comprare, eccetera, eccetera. A proposito, per il capo, andatosi da Fusaro, ne ha? Ah, bisogna aspettare, ho capito, va bene, ma non ti preoccupare, non ve ne è pressa, Natali, non ce n'è fretta. Quando vai e vedi un pochino cosa c'hanno, se c'ha 213 quello buono, a doppia carta prendi quello che è più che sufficiente. Io ce l'avevo anni e non ho mai avuto problemi, assolutamente. Davvero? Oi Massimi. Oi, buona. Io, Tattalino, Antonello, Gianni, era qua, è sparito. E prendi per Natalino, va. Sì, positivo, vai, saluta a tutti, buonasera, ciao Natalino, che mi ha detto? Marco mi pare, mi ha detto, boh. Vabbè, saluto tutti quelli che sono in questo canale, va. Natalino, vedi, un altro che è a forza di stare al sole, sta perdendo l'orientamento, capito? Io ci ho avvisato di Marco, ha detto, Antonello, in quel Rix, Gianni si è addormentato e Natalino. Tutti prendendo colpi, state, vai Natali. Ehi, ciao Natali, sto dormendo poco, capito? Quindi c'è anche quello, la stanchezza là. Va bene. Ma stai dormendo poco perché soffri di insonnia o stai dormendo poco perché stai infastidendo la Daniela? Tutti e due i cosi, mi so. Vai, che vuoi buoniette, già tutti e due i cosi. Vabbè, se non se lo mette te, no, se per entrare a dormire il tuo gas, c'è gamba. Capito, mi hai lampo. Vabbè, ma la notte già mi sveglio anche io, ma ogni tanto la tocco con questo, ma vedi ci fermi. Non ci sa mai, capito, la tocco, sì, ciao, buonanotte. Però, lo vedo, non me la putti nulla, ma te l'ho detto. Oramai ho troppo stanchezza, sonno, questo. Te già Natali, ho già detto. A vedere di tu. Io sono giovane, non è che sono un cazzo anzianotto come voi, un cazzo di abbo. Chiuditi la porta, non siamo mai andati ad ascoltare noi. Senti, hai inteso, hai inteso. Ti ha sentito, hai detto ragione, sei un morto. A te la risente però. E allora a te, tu lo sai che sei vivo. Va bene, chi è che stava affogando avanti? Affogando? Sì, c'era qualche duro che stava affogando, boh. Ah, boh. Da ieri che mi disturbano, non lo so, sopra di me ha parlato. No, non ha parlato sopra di te. No, ma ieri Eugenio dice che non mi sentiva. C'era un portante, no? Non sentivo Eugenio, vuol dire la portatore. Se tu mi sentivi, quindi sino ai punti. Vabbè, se c'è qualcuno che vuole disturbare, continua a disturbare. Io non sto disturbando a nessuno. No, non ti preoccupi, Gis. Già tutto a posto, va. Va bene, io ancora non sono giovato ancora, figurati. Appena sono aperto lo sportello della macchina, ma io gioco a pallone, a te, ma che arrivi dal davanti, io gioco a pallone. vabbè, si accontentava la Gaia. No, io mi ero giù con Elio, anche la Sassa è passato 5 minuti. Ci ho fatto una sigaretta e poi mi sono salito, ma sono qua. Ma dove vuoi fare Massimiliano, dove vuoi andare? Dove andare? L'unico svago è qua. Il bosio del chiacchiere, sono già le 7, anche se è luce, a 7 metri a Porticciano, 8 e un quarto si cena, e la serata è finita, non si arriva. E devo avere ragione, riprendi a tagliare, quella cosa là nessuno si è esagerato? No, per il momento no, diciamo che c'è qualcuno che ci sta pensando, però siamo in attesa di risposta. Io qua so chi viene e porta Munira è andata, se no non so che dirti. Va bene, kappa. E c'era Antonello ci sei? Sì, aspetto che non questo galaxy tutto, 2 minuti. Kappa Brioscia, avanti Gianni doppio rotto. Gianni, boh, sparito. Attento Gianni. C'è una bolla nel naso. No, non so. Era qua, era. Lo sentivo un po' abbacchiato. Forse era a letto, non so. Se si è tramagliato di nuovo. E boh, non so, va. Va bene. Tutto Roger e King. Niente, su che sta con questo te. Non c'è più da. Oh, sempre là sei sotto nella valle. Io, sempre là. E sono venuti a caricarmi l'aria condizionata, oggi avevo pranzo che non faceva più. Ancora con un ciclo di mezzo a leva, sì. Via. E più senza aria condizionata pure. Devi lavorare a sportello chiuso, capito? Vabbè, sportello chiuso, ma si vede per la sicurezza anche. Però la condizionata ci vuole lì, se no come fai a traboccare? Quello, quando sei in macchina apri il finestrino, un po' di aria entra, ma così sempre fermo, quando iniziano a scaldare quei vetri, si rimugiano i maretri. Rieccomi, buonasera a tutti. Doppio Rutte, mi hai fatto preoccupare, ho detto, ma non si sarà caramagliato? No, è che era al telefono con un'amica. Mamma mia, oh! Lasciami fare. E vabbè, non si parla di amiche. Amiche già ne abbiamo tutti. Se vogliamo andare a mettere fagiamani sciughe. Sì. Ciao Massimiliano, e certi amici che sono entrati, dai. Massimiliano, avanti, buonasera. Massimiliano, ma qua si è allontanato Massimiliano, c'è Natalino e come si dice? È Antonello che sta chiudendo un baracchino. Vai Natalino. Io sono andato a aprire la porta. Scappa. E anche io buffa, mi sono allontanato, ma già l'ho detto. Con il camicia va con un abbeccio, c'è sempre questo freschetto la sera, allucinante. C'è la manichia corta, mica, sto bene. Cosa sotto le coperte? Mi ero andato a vedere il vai, ero qui, ma è che corpo sotto le coperte? Anche ieri sera, io di solito muoio con la finestra aperta, capito? Così gira un po' d'aria, eccetera. Anche perché mi fumo qualche sigaretta qua, non sai chi, mi moglie non vu, però. Ma c'è sempre fresco la sera, a quest'ora, verso le 7, 6 e mezza, C'è fresco. Chissà che ci abbia detto male sul tempo. Poi Sandro Tigre, fuma tira. Uno ogni tanto. Noi fumavo un pacchetto, ma io quello che ho avuto non era la sigaretta, era un'altra cosa. Però siccome ero abituato, ero più di un mese che non fumavo. E allora 5, 6, 7 al giorno, va. La mattina non sto fumando per niente, al lavoro non me ne sto portando sigarette. Però sei qua in radio, quelle 3, 4 sigarette, 5 la sera ci si fatto, non capite? Ci va bene, ci va bene, ok, sì. Mi conosco, ok. Scendo male Sandro, abbassa, non ci ho preso niente, ho capito che è Sandro però non ho capito cosa ha detto. Abbassa un pochino la radio Sandro. Ora, ora, ora, va bene? Anche appena appena ancora abbassa. Vedi un attimino, prova, cambio, prova. Così va bene. Ho detto, ma ieri sera tu eri che quando c'era Eugenio che non si è uscito di radio? No, negativo. Tu provo a vedere con Eugenio, tu dice che non mi ha sentito più e c'era una portante a fondo scala. Pensavo che eri tu, ho detto sarà Sandro che sta provando qualche microfono e non esce. E invece era qualcuno proprio che voleva disturbare, vabbè, tanto per forse non è che ci siano molti conti da fare. Va bene, ti passo Gianni per i saluti, vai già. Sì, ciao, buonasera, dai. Adesso sì. E forse è troppo alto. Sì, appena alto così era. Ciao, buonasera. Sandro va l'uvito, è buonito tutta maletta. Ma con saluta, dove è? Fende buono. La dici bustinosi. Alla rigala. Va bene, va bene. Ok, riprende Natalia. Andale, ciao Natalia, avanti Claudio. Poi l'ha andata a fare la cacca, Gianni. Sì, c'è anche la tappignara, non c'è la tappignara. La tappignara, sì, cambio. Un attimo che sto mangiando, mi sto anche strozzando, ciao a tutti. Non prema niente, Ega. Ega, non mi scende, scusate un attimo, non posso parlare. Se vuoi ti do un colpettino, vieni a casa, ti do un colpo nella schiena. No, già, un colpettino hai detto la prima, quindi vi rompo il culino, ma un colpettino ne dico io, però. Eh beh Claudio, risparisci tu. No, io forse apriti le orecchie, ho detto sto scendendo giù, è arrivato Elio, e sono rimasto in silenzio. Sono salito poco fa, ho richiamato e mi ha risposto Natalino. Ah no, non ti avevo sentito, avevo capito che eri al telefono. Claudio, dai, ho sbagliato io, dai. Vabbè, a dopo, dai, che sono masticato. Cappa, cappa, va bene, va bene. Allora, Massimiliano, dai e goi. Ehi, dai, dai e goi, adesso mi altri due passaggini e poi me ne vado in doccia. Ci mettiamo in ciabattine e poi verso le 8:30 accendiamo un po' la stufa a scaldare l'ambiente. Però qua c'è già il riscaldamento acceso, infatti adesso chiudo la finestra perché mi sarò per la scarpa, c'è troppo freddo. Perché ti dico che stamattina avevo un freddo allucinante, avevo scritto almeno uno. Gira, avete parlato in due, forse Massimiliano. Cos'hai detto Massimiliano? Ho detto che stamattina c'erano meno un grado a Oschiri, meno freddo a 16:18. Io sono uscito alle 6 e la macchina segnava 5 gradi, allucinante. È iniziata a salire la temperatura, conservata a sorso era intorno agli 8-9 gradi. Ma erano già più delle 7, capito? Ma la mattina è allucinante, infatti è già qualche mattina, è vero che il cielo è bello aperto, con tutto, andai in moto, ma ci rinuncio, ti vai a pigliare sul freddo, vado in macchina, ci va a pigliare le luci, per carità. E la sera, quando porto il cane verso le 7:30, 8, e c'è un freddo a cagarsi, ieri mi ho messo il giubbotto pesante, allucinante. E questa è la temperatura che c'è durante il giorno, capito? C'è troppo caldo e quindi di coso, di bah, termico, come ti avevo chiamato. Tanto la mattina presto ci avevano aiato, noi alle sera avevamo a Meserio, scasseggiavano 0 gradi, la di Simazza. Urbia, sì, ma ci vediamo. Sì, stiamo facendo la sassa di Urbia. Bene, ma... un bel po' ancora. Almeno, guarda, io penso così a occhiometro che sarà finito ancora, ci vorranno 4-5 anni per finirla proprio, per dare il passaggio. È meglio per te, da, sempre più lavoro. Vabbè, noi già stiamo sempre lavorando, meno male. Perché anche altri appalti? Sì, abbiamo anche un altro pezzo di strada a Tettenia. Sì, allora, è abbastanza. Scrivi su Google, Fiume Giallo, quelli siamo noi. Andà bene, è certo che sia lontano, ma ogni mangiare per te anche la divisione. 5-20. Sì, va bene. Un attimo, una mai. Ma ho degli orari sballati, perché io faccio dalle 8 alle 3. Arrivo alle 3 per fare una cosa, l'altra, mi faccio di lui. Alle 3:30 arrivo a casa, sì, già, se posso cercare, se mi mette da mangiare, questo e quell'altro, si fa sempre il stesso balco qua, e vabbè, ci tira avanti, dai, ma è bello non lavorare la sera, perché qui non è, sono stato rialzato a andare a lavorare per 2 ore, se devi lavorare solo 2 ore ti rompe le scarpe, ma noi che lavoriamo tutto il giorno, macello, capito? Un'ora di pausa, da mezzogiorno e mezza all'una e mezza, fino alle 5, poi ci abbiamo più o meno quel 3/4 d'ora di strada da fare, un'oretta, entrare a casa, doccia e sei sballato, capito? Stai 12, 13, 14 ore fuori di casa. E poi anche il viaggio, tutto insieme, da, sopra il scavatore sicuramente. E non ha ammortizzatori, chi se no. E vabbè, l'importante è che ce ne sia, sempre meglio averne che non averne, capito? A chi da voi che lo chiama in casa dice a casa, meglio che ce ne sia. Avanti, Claudio. Come sto sento? Io ti sento compresso, forse perché siamo troppo vicini, Antonio. Ma ci vediamo. Fare un piccolo Big Jim, tu bratti, io chi ce l'ha in mano, tutum, e altre cose vedoci, prova Antonè. Sì, guarda un po', come sto scendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, non so se stai pompando, sei 50 pieno, un pochino compresso ma abbastanza comprensibile, prova a vedere Gianni come lo senti con Natalino, quindi con Natalino forse te lo va più giusto che ha meno ricezione, prova con loro. Cava, prova Natalino, a vedere come ascolti. La radio un po' chiusa, certo, la radio un po' chiusa, compressa. È il microfono normale questo, non è amplificato, è un microfono normale. Io lo sento bene, per esempio. Beh, se è normale, ma se è normale, allora... Non mi sembrava chiusa come radio. E chi gay, maletta ce l'hai? Tutto maletta, ma chi gay, eccetera, eccetera. Chiudilo un pelino, non tenerlo tutto al massimo, prova a chiuderlo un pelo. Guarda un po' adesso, sei fatto? Adesso ho migliorato la radio. Già va bene. Ok. Devo togliere la ricezione. Sono arrivato a Santiago 3, l'unico che arriva a posto è qua, dove 25 gradi. Ci arriverò con un slipper troppo. Va bene, riprendete. Qual è il frutto questo? Ehi, a galaxy frutto. Insomma, regolato, là, magari riesce a metterla a posto bene. Se lo fai modificare, esce una bocca. No, l'abbiamo modificato. Manca la LC, quindi, figurati. È a posto. Il radio è... Aspetta, è proprio il microfono amplificato, quello fa il male. No, modificato intendo come quello che c'era Massimiliano, no? Ve lo dico, vabbè, una piccola cortezza, diciamo, non è una modifica. La modifica quando c'è il suo modulatore, l'eco, eccetera, eccetera. Datemi 2 minuti che arrivo, 2 minuti solo. Vai. Ti stai fischiando. Guarda, adesso ho il microfono amplificato a palmare, com'è la situazione, meglio o peggio? Devo abbassare, sei troppo forte. Esagerato, così tanto forte esce. Cazzo, io ti dico quello che sento. Vuole, meglio così, che esca forte con il microfono a palmare. Immaginati se si mette in saletta. No, già è forte, una radio è forte, va bene. D'accordo. Se non le vuole il pallone, questo apparecchio qua, lo facciamo modificare, mettiamo doppio modulatore, poi la televisione da colui. Avevo i 350 euro bello puro, se ce li hai fallo. No, la sabbeglia, fotti di me, le mangio 350 euro, vado al ristorante e me li sputtavo, le mangio prima. Poi mi sei la mania a birra. Ah no. No, no, io sì. Ogni tanto mi piace andare a mangiare, ma non è che sia. Faccio anche altre cose. Andrà bene. Trova le salelta. Aspetta che attacco salelta. Nel tutto comunque è sempre una bella radio. Anche così, originale, è sempre una bella radio, c'è bene come radio. Guarda, questo qui è salelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Via radio, ce n'è. Ce n'è, ok, sono contento. Va bene, spinge molto di più di quello palmare. Meglio così. Va bene, si permetterà che lo apre con questo smitter che ti porta al segnale 9, ti porta. 2 minuti. Caparrogero, positivo, dai. Io vado a farmi la luce invece che ancora non mi nasce, manco il vatto e so che ancora tutto con i volti grossi. Già, ci sentiamo dopo che vado a sdocciarmi e rientro dopo, dai. Chiama, si va, vai, tranquillo. Fatti una bella luce. Così si tonifica un po'. Ehi. Ma forse c'è Marco, se non ho affogato c'è Marco forse. Stava mandicando, ma sta a pigliare. Sì. Attenzione, Marco. Conto. Mattarino, sì. Hanno chiuso tutti. Marco Condor. Sì. Ehi, chi me. E a qua non risponde di nessuno, ma si vede andato a farsi la doccia. Non sta pigliando, non risponde, perché c'è il boccone, bocca. E poi Mattarino, chiamato, non risponde. Non so chi si arriva. Ehi, Natalino ogni tanto si sposta, è lì, sta facendo cosa. Noi mi sono spostato un attimino, che volevo sbattere il cane, ho detto un appoggiolo. Vieni, nonno, vieni. Lei sta guardando, ma cosa è? Sei sento un guaio. Andando e tornando, è uscito tardi oggi. Io mi sono attrezzato, visto che voi vi trattenete fino a dopo le 8, mi sono attrezzato di portarla. Gli ho messo le batterie in carica e oggi me lo porto giù. Asciuga, ma chi è? È Eugenio di Porto Torres. Sì. Chiara, Eugenio. Bella è, la manetta ce l'hai. Cos'è questo? Zeta G? Bella, forte, sì, vedi? Sei col furgone? Ma dove sei, Eugenio? Vabbè, e poi mi ha detto che te ne hai un altro a provare, quello modificato da lì. Metti anche quello a provare. Il triplo beep. No, questo va bene, quella radio. Ehi, adesso vediamo il processor modificato. Però lui parla troppo vicino, l'ho visto, lui parla così, mi. Qua ci deve stare a minimo 10 centimetri, se sono 20 anche meglio. Bello anche il processor, vedi che ci sei riuscito a far andare bene, bello. Sì. Va bene anche il proxy, sì. Senza eco la prova però. No, appena di eco a me mi piace il DM1000, come quello di Gianni. Tu ci devi farlo diventare tu. Appena di eco volume dell'eco è troppo alto. Applicazione abbassa, che è troppo alta, 10. La devi mettere a 4. Metti la tra il 3 e il 4. Oggi mettila tra il 3 e il 4. Lei resta un mazzo e te lo regolo bene. Aspetta, Eugenio, a che distanza sei dal mic? Ricordati, minimo 10 centimetri. Adesso è perfetto, Marco, lascialo così, Eugenio. Claudio è morto. Comunque adesso va bene, Eugenio, non toccarla più quella regolazione perché è perfetto. Bomba, ti c'è un peso di bagno su casa, ma la capsula non è la sua questa, vero? La capsula l'ho cambiata. Del coso, delle M300 la capsula. Ehi, è delle M300 Io l'avrei preferita senza eco, è sempre più capibile. Marco, se dovrebbe usare come va? Bene. Ok, funziona, manco male. Sono un anno e mezzo, vabbè. Il Pluto, ma di chi è? Non lo so di chi sia, comunque mi aveva dato tutte le GPC a sistemare. L'anno scorso, figurati. Ah, giuricato. Quando serve non c'è mai sto Claudio. Marco, mandami quella foto. Ah, giusto, sì, un attimino, Eugì, vabbè, a te piace l'eco, no, a me piace senza eco, è sempre più chiara, c'è poco da fare. Perché questa non è chiara, Marco? Sì, però, vabbè, i gusti miei sono già, ognuno ha i suoi gusti, dai. Però anche lo ZG era bello pimpante. Beh, fatemela sentire che mi sono allontanato. Adesso te l'ho regolata io, guarda, ascolta com'è. Così lo devi tenere, non lo toccare. Questa è la regolazione che c'ha Gianni. Certo, la modulazione di Gianni è diversa dalla tua, però così piace a me. Col sottofondo con l'eco, senza ripetizione, benissimo. Vanno tutti e due bene i microfoni. Devo dire che vanno bene sia uno che l'altro, però il ZG secondo me c'ha più acuti. Sta spingendo come deve essere, ma soprattutto la modulazione rispetto a quando l'hai comprato, quindi prima di farti la modifica, Antonello, non so che cosa abbia fatto, è completamente un altro microfono, adesso è chiara la voce, prima era tutta impastata. Eia, ma era in prova, se vuoi te lo lascio. Come vuoi, dai. Eia, io naturalmente, per come soppignolo io, avrei preferito lo ZG, più toni alti, quando sei basso di segnale i toni alti aiutano, poi vabbè, dai. Sì, sì, confermo anch'io, infatti l'ho detto poco fa. Il Proxel va benissimo, però ZG ha più acuti, quindi tonalità più alta, capito? Quindi ti può aiutare in determinate circostanze o Eugenio. Però devo dire che ha fatto un ottimo lavoro Antonello, La radio è bella chiara adesso, chiara, non è più impattata, va bene? Perfetta, amplificata, con l'eco giusto, lascia la regolazione che ha fatto Gianni, non la toccare da così. Eia, eppure faglielo sentire a Claudio, lo ZG, faglielo solo sentire, dai. Non toccare. toccare le regolazioni del prox, le lascialo così, fammi sentire i dettagli, voglio vedere che differenza c'è di acuti, di tonalità. Sei c'è più forte al furgone che da casa. Alla grande. Oh yeah, dai Marco, è più forte il prox come l'ha regolato adesso Gianni di questo. Ma questo è più squillante. Cioè, dovendo scegliere io sceglierei ZG comunque, dai. No, non lo so se sono d'accordo, è già. No, io non sono d'accordo, io sceglierei il prox. È più forte, ma di brutto più forte. Non c'è dubbio. E in lontananza vanno con questo. Proxer va alla grande veramente, ha fatto un bel lavoro, se c'è un'altra di quelle capsule me la faccio mettere anche io. Sì, un bel lavoro. Nathalie, tu lo senti a Eugenio? A Nathalie, perché sì, va bene, ci sono quelli che togli il microfono, ricevo, ci sono quelli che hanno la ricezione diretta, meglio. È bella anche questa però, attento, però a mio parere è leggermente più forte. Questa sì, c'ha un, sembra un po' di acuti, non riesco bene a inquadrarti. Ho provato anche a invertire le radio, però è sempre lo stesso. Mi piacciono, tutte e due sono belle. Però il prox va bene come regolato adesso. Non tocchese. Ascolta Claudio, ma non è che puoi fare il sacrificio e mettere il Telsat in ascolto? Sì, sì, è quello che ho fatto la cosa. L'ho già fatto, ho già commutato al Telsat e c'è una modulazione spettacolare, spettacolare, veramente, su tutti e due i microfoni. È lì che ho notato che ha più acuti il ZG, perché col 440 non noto differenza, sento solo che il prox è la più preamplificazione, però non notavo la differenza degli acuti. E su maledizione, sulla Fayette si nota, ha una ricezione da favola quella baracchino, madonna. Ok, dai, insomma si equivalgono, dai. E beh, tanto vale allora lasciare il Proxel. Il Proxel mi piace come regolato adesso, io ho sempre detto che con tutti quelli che io sento, con i microfoni da palmo, con l'eco eccetera, Gianni è quello più corretto, nel senso che non è, non ha troppo eco, è giusto, bella amplificata, capito, non ha ripetizione, va bene. A volte quando si mette a spolverare tocca tutto, allora è un casino. No, è favolosa, dai, Marco, è favolosa, sto ricevendo col Telsat, è favolosa, Eugenio, no tocchese, va bene, bene, bene. Mamma mia, quell'eco, ma non posso vedere. Dunque ce lo puoi vedere, ciao Vale, perché in macchina Eugenio Vale sta regolando, già me gli ha regolato il proxer e adesso va veramente molto molto bene. Ciao Vale, ben sentito. Buonasera a tutti, sono offeso, sono arrabbiato, di tutto di più, non lo sento, anche quando è a casa non lo sento, ma non è possibile, qua bisogna fare qualcosa. Esci meglio dalla macchina che da casa Giulia. Ma io non sento proprio nulla in zero. È troppo basso per te dove lui, Vale, è troppo basso. L'unico che a te ti arriva da Porto Torres è Sandro, perché c'ha l'apertura praticamente, Monte Alvaro le passa di fianco, lui prende Monte Alvaro proprio davanti, capito? Ed è difficile che tu lo senta, a meno che non abbia un po' più di potenza. Se da un po' più indietro Claudio parlavo con Pinangelo tranquillamente in macchina, dalla zona del bivio di Coso, dal bivio della cantoniera, un po' più giù di Eugenio. Parlavo con Pinangelo tranquillamente. Esatto, dalla cantoniera di Pideazzi sì, però lui è più avanti, capito? Da lì passi in mezzo come fa Sandro su Monte Alvaro, se noti bene, quindi dove c'è il coso dell'acqua, da lì, dove giri tu per Monterraso, capito? Da lì, perfetto, sono d'accordissimo con te, però più avanti lo prende proprio in pieno Monte Alvaro, capito? Perché più ti allarghi verso Sassari e Monte Alvaro va a stringerti proprio su Alghero. Sì, sì, in effetti è così sicuramente, perché magari trova qualche ottacca. Sì, sì, è come i punti, per esempio. Massimiliano arriva, basso ma arriva a Vale. Valerio, mentre già dove è Walter, quella zona lì, proprio inoltrato, proprio, capito, la zona di Maciaguretta, per Alghero ha problemi, è molto più coperto, non è che non arrivi, però ha più problemi, capito? Proprio perché c'è quel cavolo di montagna che prima o poi si abbasserà, intanto fra un po' non ci sarà più quella montagna perché se la stanno mangiando, è un problema, è un problema. E soprattutto la zona di Monte Oro. Va bene, vale, va bene, ok. Allora, Massimiliano è andato a farsi la doccia per caso, io non l'ho sentito. Sì, sì, è andato a farsi la doccia. Ah, ok, allora ho perso quell'attimo che magari ero distratto, va bene. Allora, quindi c'è Gianni, Natalino, Marco, Eugenio, Valerio D'Alghero. Vediamo se Natalino risponde. Natalino? No, Natalino è impegnato, va bene, ok. Allora riprendi tu Marco, che c'è anche Valerio. Sì, va Valerio, avevi letto, sì Claudio, sì. Ci ha mandato un messaggio per quell'accordatore grande. Sì, sì, l'ho letto Marco, l'ho letto. Adesso ti rispondo anche perché non ho avuto l'attimo per poterti rispondere. Va bene, va bene. Allora Valerio, riprendi tu, tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, niente in ordine. Come si dice, no? Se è peccato a questi morti che ci sono, vogliono presi, buttarsi, buttarsi giù. Fare, dovevo togliere anche questo qua, monte, montagnese, mi costa un casino, io ce l'ho forse da un'altra montagnese, ma è un quartiere che mi ero preso, non riesco mai a sentire nessuno, perché campa, questi monti qua campano, è parecchio anche, sì, dopo, dai, pazienza. Infatti si è morto e beh, radio, questa risposta di questo maledetto accordatore, non me la dai? Se stavo parlando a Valerio, adesso te la do la risposta, riprendi tu già. Valerio, buonasera. Buonasera. Di Paletta, va. Ciao già, buonasera. Un pochino che non ha già detto così a ascoltarti. Tutto bene, tutto a posto? Un bacino perché sto usando 4 watt. Eccomi, 4 watt anch'io. Che poi sono 4 watt qui, all'antenna ne usciranno 2. Adesso Valerio, come mi ascolti, cambia. Ah, molto bene, adesso molto bene già. Va bene, va bene. Vabbè, no, come troppo, poco di QRN. Di solito a quest'ora aumenta il QRN. Io non capisco, a questo giorno zero, non c'è un filo di QRN. A quest'ora per la mattina non so che poi inizia il tuo rete, buono, veramente. E vabbè, tutto si è tolto bene già, anche vabbè, se non vuoi mettere lineare, toglielo, già si è tolto qualcosa. Questo è un bellissimo apparato. Allo pazzo, allo pazzo. È omologato, capito. È il Cobra. Cobra. È un bellissimo apparato, c'è un bel monitor, diciamo. È una bella visuale. È proprio a livello di apparato moderno, dai. È ultima generazione. Insomma c'è tutto, frequenzimetro, tutto di più. Quello era veramente un bel 40 canali, quello sì che era da prendere. Io e Antonello ce l'abbiamo preso insieme, io glielo ho chiesto, Antonello ne prendiamo due, sì già prendimelo e ce l'abbiamo preso insieme. Ti ricordi là quel pro quo che hanno chiamato me, dice ma l'apparato non lo vuole più, quale apparato? No, era Antonello, ero sbagliato, sicuramente. Io gli ho detto forse lo vuole anche un mio amico, però non è che gli ho detto che tu lo volevi prendere, gli ho detto forse. E loro subito hanno cercato di trovare a parlare basso, invece. Vabbè, comunque è soddisfacente, c'è bene tutto, bastava aprire appena le 10 questo apparato ed è un campione, va benissimo. Valerio, Valerio, il Sisigonza, già io organizzavo qualche altra cosa. No, pensavo che stava parlando poco, la carina. Cobra? No, no, comunque dovrebbe essere un problema dell'apparato, mi sa vicino a tutti. Scusa, ma non è perfetto, c'è poco di eco. Io vorrei sentire cosa, mi chiama, ma si chiama solo cosa. Madonna, oddio. No, non ricordo mai questo nome, è così complicato. Disco, vorrei sentire Eugenio con questa modulazione amplificata e con un tanto di eco. Adesso c'è bene, ho fatto la regolazione io del microfono. Eugenio, Eugenio, ricordati, quello di Canale 5, di Striscia la Notizia, Eugenio, Eugenio. Sì, ma non lo ricordo, è molto, non è tanto comune questo nome, mi ha detto, allora lo dimentico. Valerio, ti sta chiamando. Tu, le auto ma non vedi, porca miseria ladra, vai che mi preparo. Oggi ti sta chiamando Valerio. Valerio? Bobo. Se ritorno alla colonia, mi stavo facendo, se ne immagini. Se butto il microfono verso la colonia, mi fa ritorno di radiofrequenza. Qua. Adesso non lo fa più, vabbè. E anche io fra poco mi devo preparare. Mi sa che devo uscire, io ci vedi Marco che mi compro le scarpe. A quest'ora? E dove le compri? Ah, le scarpe da te ci devo comprare, non la Giugana, non lo so se andarci o no. Sì, vabbè, dai, ci vado domani, lascia aspetta. Sono un po' mandrone questo periodo. Io una vita che sono mandrone. No, è la primavera a me che mi fa questo effetto qua. Penso di fare tante cose e poi non mi decido mai. Ieri però devo andare dal barbiere, sono passato in moto, visto che c'è poca gente, vai, tosato. No, io venerdì ci vado. Ci sta la barba, il capello me l'ho già fatto. Però ogni settimana vado per la barba. Va bene, dai, io momentaneamente mi allontano, che sono le 8 meno un quarto, sennò poi fa buio e voglio un po' dobbiamo tagliare il cane qua al boschetto. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Ok, un saluto circolare a tutti. Sì, che ci saremo sicuramente. Io mi sono organizzato il portatile, se c'è gente parliamo. Ciao, guarda, buona passeggiata, fra poco mi attrezzo anche io e parlo. Poi anche se si sta bene sdraiati, andare, avanti Marco. Lei è Claudio. Io ho perso anche la cognizione del tempo, vediamo che ora è. Ah, le 8 meno un quarto. Ma com'è possibile? Vabbè, è possibile per il cambio d'ora. Caspita, non mi ero reso conto, credo fossero le 7 e un quarto massimo. Vabbè, buona portata di cane, dai, chi c'è rimasto? Io ci sono rimasto, ma le 8 passa. Portare il cane, ma mi porto il portatilino appresso. Eia, ma quale portatilino? Quello della 27? E allora? Così almeno se mi sentite passo. Eia, io l'avevo dato, mi quello tipo il tuo con le femme in più, l'avevo dato a Pomponio. Tanto mi, lui lo usa ogni tanto lo stesso quando va in giro, però sempre poca radio hanno quelle radio lì, anche aumentando il trimmer a manetta non c'è niente da fare, sono fatte male, cioè rispetto agli apparecchi storici di allora, tipo l'indicatore di canale rosso, ti ricordi l'Excalibur? Poi ho avuto non so quale, ho avuto l'80, quelli erano apparecchi veramente ottimi, non questi, questi adesso fanno ridere, fanno dai. E anche io l'80, e praticamente secondo me la capsula sola sostituire, non è questa che dici, se tu metti una capsula che rende, magari ti senti anche più forte. Capito? Perché io ho quello per l'emergenza, un attimino poi ti faccio entrare, quello per l'emergenza, quello della X-Life, quello riesce un bel forte, se te lo attacco mi dico che ci siamo più ficcati. Eia, com'era a suo tempo il Maxcom? Maxcom aveva una modulazione acuta, bella, limpida e forte soprattutto. È inutile, portatili una volta erano migliori, poi quell'Excalibur, mamma mia, maledetto il giorno che gli ho fatto mettere mano a una persona, me l'ha bruciato. Per darlo in giro. Avanti, Lucrezi, avanti, buonasera. No, no, ma sai perché già? L'avevo dato per fare una modifica. E qualcuno ha invertito i poli, ho visto il fumo uscire di persona. Poi con meschini i metodi stava cercando di salvare la situazione. Vedi, vedi chi riceve, vedi? Per carità, guarda. E non si poteva aiutare? No, ho tutto bruciato, poi c'è. No, no, purtroppo no, non faceva. Era tutto, ti dico di avvalo, il telaio in alluminio preso fuso, era veramente un bell'oggetto questo. Versatile, l'attacco per l'alimentazione esterna, l'antenna esterna, le cuffie. Cos'è che non aveva? Di tutto aveva. Attacco per il microfono. A quattro poli, mai vista una cosa del genere. Quattro poli, deve attaccare il microfono a quattro poli. E perciò era un portatile unico. Ma sai quanto ci ho rimorginato su quella cosa? Non mi fate bestemmiare, dai. Sì, la gente se la sta dovendo mettere le mani, tipo che è andata a basso. Comunque è sempre buono avere un fusibile la parte mistica, perché se dovesse succedere qualche contraccettito è anche il fusibile non continua, capito? Eia, eia. E la stessa fine aveva fatto le FM500S. Aperto, acceso con la cuore aperto, lato pista, lato saldature, scappa lo stagno dalla mano, prac, tutto bruciato. E con meschini mezzi sempre cercando di coprire il danno, capito? Mm. ehi, cacciapite, maledizione. Dopo un attimino che salgo a casa, dovevo cenare e poi riuscire, no? Sono successo giù, ho trovato lo specchio rosso, e poi invece c'aveva l'attacco a spinotto, potevano attaccare lo spinotto, l'avevo tagliato con le pollici. Ce l'ho sempre lì quel Max con 7 con la valigetta. E ho sì l'antenna originale telescopica, no? Che però è troppo corta. Mi sono reso conto che è troppo corta. E poi ho l'antenna con la stessa basetta magnetica però corta, tipo Digos, non so se è presente, quelle macchine borghese con l'antennino di gomma. Così è, lungo 25 cm, rende ancora di meno. Sì, ma io il mazzo non lo conosco, me lo ricordo benissimo. È tipo l'Inter che c'ho io, solo che rimaneva più largo, e più piatta. Invece dice che rimane in forma allungata, tipo mattoncino, e rimane più grosso. Veglia, all'epoca c'era una sticchita emergenza, il Maxco non era neanche omologato perché è americano, non era roba omologata, l'Intec sì. L'avevo visto a casa di Pomponio, quel Maxcom, e me ne ero innamorato, e l'avevo comprato da Cine Radio all'emiciclo, pare un 200 euro pagato. E bello era, molto molto bello, ma all'anima 10 batterie ti dovevi mettere, 10 batterie ricaricabili, o 10 pile, 10, altro che pacco batterie. No, il mio basso elettrico, il mio l'avevo pagato 100 euro proprio da Cinerario, me lo ricordo bene, l'avevo comprato anche io lì, però il periodo che stava già prendendo tutta la roba della 27, perché sicuramente ho battuto, se metto mi dia 100 euro glielo sto dando, glielo comprato io. Ottimo, ottimo prezzo, se no l'avresti pagato molto ma molto di più, a prezzo pieno. Poi c'è il rivenditore Intec di Sassari, di cui non voglio fare il nome, inizia con la G. Lì tutto a prezzo di listino, a prezzo pieno paghi. Sassari vuol dire proprio pieno. Tipo i PMR della Intec, l'MT5050, appena uscito, lì 88 euro, prezzo proprio pieno, mentre gli altri lo vendevano 75. Online, capito? Vabbè, c'era la spedizione, mi dici? Però 88 euro, col sangue l'ho pagato. Allora, io quando sono andato a prendermi il primo PMR, mi avevo preso un kit e mi ha già detto, ma questo qui è il più forte che c'è, il PMR, questo con l'altro, bomba. Mi era sembrata lì. Mi sono comprato questo PMR e in realtà non mi pare che avevo un altro apparato della mia. Fatto sta che faccio il giro del palazzo, non mi senti bambino, prova col suo e il suo andava e anche oltre, faceva tutto il giro, andava lontano e cose, parlava tranquillamente. Mi aveva fatto pagare una barca di soldi e non valevo una lira. Sono ritornato e mi ha detto che andava bene, tappato, prendeva il palazzo e dice tranquillo, adesso c'è una modifica, ce la faccio io, c'è una modifica che questo lo può uscire veramente forte, comunque di radio è stato più forte degli altri, ma non glielo dico. Ti lascio questo apparato circa un mese per fare questa modifica. Passo, rifassi bene la prossima settimana, non ho più potere, la prossima alla fine, sono andato con un attimo ripreso, gli ho detto che non ne compravo più nulla, che su internet il nostro apparato costava molto meno. Allora si è incazzato un bel, ha detto che praticamente internet non ti dava garanzia, cosa che non è vera, tranne quel buffone che va preso lo sasso, ma ti dà sempre lo spuntino, gli altri. E niente, gli ha detto che devi andare su internet, perché poi quando si lasciava già me la dava anche una volta, dice, avevo comprato una LAN 48, era difettosa, gliel'ho portato dopo un giorno, mi ha detto che l'avevo manomesso io, e sicuramente l'avevo manomesso io perché non era possibile che avesse così bene, c'è da garantire. Ma chi, sempre Montagnani? No, no, sono di Sassari. Cine Radio. Ai, sono di Sassari. Chi c'era a Serra Secca? Un attimo, G. Ah, no, sei uscito dicendo che l'avevi manomesso tu perché non poteva avere quel difetto. Quella politica che utilizzano, E poi tu non sai, quando c'era quell'altro ragazzo che ti ha licenziato, quando c'era quello, quello era un antipatico di prima qualità, io non lo potevo dire. Si toglieva queste battute di merda che veniva a dire, quindi un ciappa a bocca. Oh, è del tipo? Del tipo che dava sempre la colpa, capito, se c'era qualcosa che non andava, dava sempre la colpa che ha acquistato, l'acquirente. Che c'eravamo noi che non ci intendevamo, che toccavamo gli apparecchi per intendere, ce ne è per questo tipo. Ma mi dice, che l'ha toccato l'apparecchio, lui che l'apparecchio non l'ho toccato. Un po' strapotente, dai. Eugenio, riprendi anche tu, Elettronica Marinesi? Marinelli, ok, buono saperlo. Cosa vende, roba nautico anche a baracchini? Certo, non è di più noti. I più noti sono Magic Phone, vabbè, anche quello da evitare, FDQ elettronica, MPX elettronica, CRT elettronica, tutti a sigle sono, no? Media Globe, ottimo, anche per la roba amatoriale. Poi quell'altro bravo, chi è? Piccolo ma onesto. Mannaggia, non mi viene il nome. Quello da cui hai preso il DM1000, come ti si chiama? Il... Radio Fitter, buono. Vabbè, a te è andata bene, diciamo, dai. No, quello da cui ha preso il microfono. Vabbè, non mi viene, dai. Costore, può essere? Sì, la costore, sì. Però a Sassari ti facevano delle partacce, amici, hai sentito Gianni, no? Comprato un baracchino nuovo, lo accendevi, non funzionava, glielo riportavi e dice, andava a dire che i baracchini non li sapevano trattare, che la colpa era del cliente, capito? Ma dove? Diglielo già. Sassari. Sassari. Sassari c'è uno solo in questo baracchino, non mi diceva. Beh, anche Fugiaro già li vende. GBC, me. Ah, GBC. A me mi piace perché in quel cantiere c'è tutto. Però lui non è che faccia più tanto, diciamo. Sì. Ma ci avevo commesso prima che era un bel antipatico, solo Alba la faccia di merda, appunto quando ti diceva le cose, te le diceva con una faccia fea, brutto piacere. Sì, una persona odiosa, mi si vede con una persona odiosa, la pelle, non ha più visto. Ma che no, a me quel ragazzo soffre, anche se soffro, anche se vuole essere più sucio, lui tratta con la pelle. Non dipendente questo, è vero che l'ha licenziato. Ma quel magazzino noi ci abbiamo così, è più ordinato questo magazzino di quel negozio. Mi ho trovato il sito, Elettronica Marinelli. Vado subito ad acquistare qualcosa. Oh, ciao Marco, ci sentiamo, là, che ne so. Le 8 meno un minuto, le 8 sono, dai. Il puntuale intendo mi è venuto che sta guardando come dire bene, non ha detto. Ascolta, racconta Eugenio, comunque già dai, se vai, un ultimo passaggio di Eugenio e vai, dai. Che cosa ti è successo con questo Marinelli? Mancata garanzia oppure altro? Dice, guarda, è andata anche in questo. Sì, va bene. Io ho scritto, penso i Gianni stanno a portare il cane. Mi sembra caro comunque questo Marinelli, perché l'antenna che ho io da camper, la X-Turbo Camper della Midland, no? Costa 45 euro normalmente, qua 69 euro, ma siamo matti. Poi altre cose sono care, un microfono normale è 16 euro, quando costa 10 euro. Un'antenna che io ho pagato 15 euro, qua costa 27 euro. No, per carità. Marco, tenete conto che chiuderò il portatile, quindi se è ogni tanto chiamata. Eia. Ok, ciao. Eia, Claudio. Ogni tanto mi viene... Ecco qua. Sì, mi stava dicendo... Eugenio che ha avuto in passato problemi con questa elettronica Marinelli, deve essere un altro tipo Magic Phone lì, e c'è un ragno nel logo di questo sito, c'è un ragno disegnato, ecco. Quella roba è anche cara, vero che non è cara la roba, a meno. No, non ho sentito parlare, ma no, non ho mai avuto niente a che fare. E quindi no, non so risponderti in merito, non lo so, e bisogna stare attenti quando si compra, perché la più affidabile al momento è sempre Media Globe, insomma, anche se sono un po' più carucci, la Tecnocomunicazioni è molto, insomma, vende abbastanza, però ritarda soprattutto con le spedizioni, e ce ne sono tanti. L'unico è Danilo, quello che io avevo dato il numero di telefono a Gianni, che è molto serio, risponde a tutto, se ha un problema ti avvisa, però non ha sempre di tutto, non ha sempre di tutto, capito? Ultimamente l'ho chiamato per un altro MC60, mi ha detto che non ne aveva. Se entrava qualcosa mi chiamava, ho detto oh, non mi chiama neanche, se ti entra mandamelo direttamente, usato naturalmente, nuovo non lo compro. Va bene, era per attaccarlo appunto al 430, perché ogni volta devo staccare questo, quello al 430, eccetera eccetera. Vabbè, ok, tutto a posto, quindi Gianni è andato, e poi chi c'è rimasto? Marco, davvero? E io, Massimiliano è rientrato, con Natalino non mi ha risposto, tocco fa, vediamo, forse c'è Natalino, no, evidentemente la gente lo sta facendo cosa, avanti Massimiliano, vabbè. No, stavo ascoltando, a volte mi piace anche ascoltare. Sì, perché a me già mi piace ascoltare, a volte non sempre, a volte mi stufo e spengo direttamente tutto. KK. E invece Valerio c'è, è andato a cenare. Ciao Vale, tante cosce belle, allora ci aggiorniamo, pur per quello che appunto stavamo parlando al telefono, se sento qualcosa ti avviso, però sappi che il 99,9% sono oramai tutti non più stabili come prima, perché l'usura c'è, quindi non c'è Cristo, c'è qualcuno, ma devi andare a controllare siti e contrositi che magari c'ha ancora qualcosa di ricambio, ma non te lo consiglio. Non te lo consiglio assolutamente, sono dei lavori molto molto molto particolari, perché c'è da fare a pezzi per la radio, quindi fino a quando funziona, quando non funziona, e così io ti ripeto, c'ho il 430 che lo accendo ogni tanto, lo uso, poi quando non mi sentite vuol dire che sto cambiando la radio, perché mi si spegne da solo, è proprio l'usura, la vecchiaia, dicevo, qui non ha più gambe, fa vent'anni, siamo a riposo, capite? E quindi è così, però mi sono promesso di mandarlo alla Bianconi a farlo tutto, risistemare, proprio mettere veramente ad hoc, perché è un peccato, è fortissima quella radio, c'è una ricezione favolosa e funziona meglio di questa che sto usando, il 440. Quindi è così. Va bene, ciao di nuovo Valerio, tante belle cose, buona cena con tutto, ti passo Massimiliano per i saluti, vai Massimiliano. Sì, positivo, dai, ciao Valerio. Buona cena, buon di tutto e buon continuo di serata, non so se mi ascolta comunque, va. Riprendi Marco. Veglia, c'era sotto Valerio prima, ma modulato Eugenio, avanti Eugenio. Davvero? E cosa aveva? Ah, Gapso, Silvia Annuta per la modulazione sua. Sì, ha fatto un bel lavoro Antonello, veramente. Stavolta devo dire, esce molto bene. Come Gianni, dai. Come lo usa Gianni Prox, così. Bello amplificato, con un leggero eco, senza ripetizione, bello, bello forte, sì. Vai bene Eugenio, non toccarle quelle regolazioni perché adesso vai bene, sei chiaro, chiaro, funziona bene, funziona bene. Ascolta, e poi quell'antenna avete fatto il lavoro, no? Stai usando sempre quella lunga? Massimiliano il sabato a volte lavora, a volte lavora, quando lavora e prima di andare a dove devi andare 5 minuti ti fermi lì a San Giovanni salendo, lui ti raggiunge e la cambiate l'antenna, così la provi proprio mentre sei in movimento, capite? Guarda oggi io, se tu vuoi, se sei libero, domani verso 6:20, 6:15 ti porti, ti fai trovare lì a San Giovanni, io lì, dopo me la metto in macchina, mettela lì. Va bene, però ti mando un attimino un messaggio WhatsApp, ti chiedo solo una cosa. E allora a me. Un bel carro è quel negozio, è un bel carro, un Midland G9 che quasi tutti vendono a 70 euro, anche modificato te lo danno a 70 euro, qui costa 99 euro, è come se fosse 100 euro lì. Vabbè dai, adesso è impegnato. Sì, caro è il suo negozio, è anche poco affidabile, dai, ha giù compreso. Poi altri negozi che mi ricordo, c'è un negozio che io non ho, da cui io non ho mai preso niente. Come si chiama quello lì? Ma vai, non ha mai. Claudio. Vabbè, leggili questi messaggi almeno. Ma a me qua mi dice che te l'ha già inviato. E rispondimi lì, però non qua, Gappa gappa, scusate questo teccaballacca. Claudio tanto è caduto, non risponde più. Ma a chi interessa un M300? Ma a me? No, ho detto a chi interessa un M300. E non è neanche mio, è di un amico, lo sta dando. Quanto Massimiliano? Non lo so quanto ne vuole Claudio, è di Gianni, può cardarsi, che gli manca lo spinottino da agganciare alla radio. Sì, tanto io se lo prendo devo farle mettere lo spinotto a 4, così mi faccio le connessioni giuste, non tocco il turner per il DAP. Bellino è stato questo M300. L'unica cosa che ci vuole lo spinottino a 4, capito? Sì, mi dà, è normale, quando compro un microfono non è che ti danno lo spinottino attaccato, no? Bisogna vedere quanto ne vuole. Io domenica lavoro di nuovo, purtroppo, se non ci vedevamo giù a prendersi caffè, però dovrei essere libero venerdì e sabato, perché così devo recuperare una giornata. Quindi tu venerdì lavori, però sabato mattina al limite ci possiamo vedere. Capito? Tanto devo fare un sopralluogo. Ma a proposito, lo posso fare anche venerdì, posso farlo anche venerdì, se sono libero, a Natalino, se sono libero posso farlo anche venerdì, sopralluogo, venerdì mattina, comunque lo aggiorno, tanto domani è vedi, Natalizia, se all'ascolto ti aggiorno, perché può darsi che lo posso fare anche venendo sopra loro da te. Non c'è Natalina, vabbè, avevo un colpo di citofono, non c'è problema, capito Massimiliano? Massimiliano! Fallo messaggiare! Grazie! Bene, comunque con Media Globe, Claudio, i prezzi erano sempre più bassi. L'857 costava più basso di tutti da Media Globe. L'8008 era il più basso, il prezzo più basso della Media Globe. Anche le antenne tipo la, quella che piaceva a me, come si chiama, la CP6 della Diamond, da lui costava molto meno che da tutti gli altri venditori, ho notato. Parlando di Media Globe? Sì, sì, sia gli apparati che alcune antenne di mio interesse costavano meno che da tutti gli altri apparati, ma tutti gli altri venditori. Sì, vendono bene, io ho comprato poca roba da Media Globe, adesso non me ne ricordo, non vorrei sbagliare, ma allora l'MD100 l'ho comprato dalla CSong, l'MD200 l'ho comprato dalla CSong, l'SM20 ho comprato dalla Media Globe, rispetto agli altri c'erano 20 euro di differenza. Invece sai, no, che ho notato che è caro, AM Radio Shop. Caspita, la CP6, adesso c'è la CP6S che costa di più. La CP6R da Media Globe 2,65, da AM Radio Shop costava 300 e tanti, non mi ricordo se 330 o cosa c'è, ci sono differenze anche notevoli. Purtroppo la CP6R non c'è più, adesso c'è la CP6S, dice che sono migliori le bobine, che accorda meglio e ti danno anche una specie di aggeggio che serve a evitare i rientri di RF, ma purtroppo costa molto di più adesso la CP6S, costa da Media Globe 3 e non mi ricordo, dai. Non lo so, io antenne verticali non sono mai andato d'accordo, ho sempre preferito l'affilare così a livello, europeo, parliamo in quel termine, a livello locale, poi quando mi sono deciso dopo tanti anni, ho montato le direttive, che si rimane niente la sua sede, e poi modo di dire, sono lì fermo, non sto usando niente. Però, come verticali io non ho mai avuto niente, perlomeno a livello HF, solo la Mantova e la multibanda V, basta, la bibanda V, scusa, capito? Non è che ne sono molto simpatiche, non vai da nessuna parte, no. Per poter fare quel tipo di attività o c'hai le antenne sul tetto, se no rimani a piedi, c'è niente da fare. Va bene. Ti devono portare la Mantova Turbo, a me la Mantova Turbo non mi piace, è un'antenna che non mi è mai piaciuta da quando è uscita, io l'ho montata per due volte ho perso tutti i radiali, alla fine ne ero tolta e ho comprato la Mantova 1, radiali in fibra, 4 radiali in fibra, un po' più, ma niente di che, è proprio qualche pelino di differenza con la Mantova 5 hanno, però le migliori in assoluto sono la 1 e la 5, la Mantova Turbo non te ne che a me, non mi piace, io l'ho comprata per due volte nuova, la piastra si è tutta fatigata, ne ho perso tutti i radiali, li ho rimessi nuovi, ne ho tornati a perdere, un'antenna fatta così male che proprio non si può parlare di peggio. Claudio. Cinque radiali la Mantova Turbo? No, la Mantova Turbo ne ha di più di radiali, ne ha 8, non 5. Dimmi Massimiliano. La Mantova 5 c'ha i radiali in fibra, ripeto, come la Mantova 1. Ma lui ha detto la Mantova Turbo, se parliamo la Mantova il sistema del radiale è completamente diverso sia dalla 1 che dalla 5, quindi la Mantova Turbo c'ha 8 radiali, mi sembra, o sì, buon nominamento. Comunque è il sistema del montaggio dei radiali che è una grandissima cagata, capito? Perché vanno, sono, c'è una piastra, poi un'altra piastra sopra, si ingaggia tutto, ti ingaggia il radiale a rasura. No, non mi piace come antenna, non mi piace, molto meglio la Mantova 1, quel radiale in fibra. E io ce l'ho uno lo stesso, ma io la Turbo l'ho piazzata a casa di Gianni Fokker e va bene, però l'ho tutta revisionata prima, tutta messa in ordine, capito? Guarda il messaggio che ti ho mandato, la foto per il prezzo che mi ha detto di dirti per te, se ti va bene ti rubigli, se no pazienza. Eia, sì Massimiliano, anche guarda, io l'avevo completamente sia sotto, no? Montati i radiali, poi prima di mettere il coperchio sopra per mantenere i radiali, no? La contropiatra, l'ho tutta completamente riempita di grasso, capito? Nuda la va. È durata 6 mesi, piccioni, si appoggiano e il radiale mantiene. Come l'hanno il corpo per partire, drum, si bicia nel radiale. Si piega nel radiale. Gli altri che avevo messo, li avevo messi un pochino più robusti, sempre vuoti, però un pochino più grosso l'alluminio, è durato un poco di più e si sono affacciati le viti, no, che mantiene il radiale, si sono rotti. Quindi ho detto, boh, rimetto la Mantova 5, non l'avevo, quando sono andato a ordinare la Mantova 5, perché l'ho ordinata direttamente in continente, mi ha detto, guarda, se vuole ci abbiamo la Mantova 1, me la mandi subito, non se vuole, mi mandi quella e blu. E mi ha mandato la Mantova 1 e la Mantova 1 ho montato. Grazie a Dio mai ho avuto problemi né di radiale né di nulla. Io dal canale 1 al canale 80 ho sempre le stesse stazionarie, mai avuto problemi. È un'antenna eccezionale la Mantova 1 e la Mantova 5. Per resistenza al vento, per durata di come sono fatti e di come è fatto il motore dei radiali, perché sono a innesto con un sistema molto molto tosto, e i radiali sono in fibra, quindi non le fa niente il vento, non le fanno niente gli uccelli, capito? Per rispondere a Eugenio, quindi se una Mantova Turbo tira giù Rigarendi, pigliala, se tira giù Rigarendi, se devi comprare la Mantova, compra la Mantova 1 o la Mantova 5, non la Mantova Turbo, ok? Allora la Mantova 5 è quella, se ti ho detto c'è 5 radiali, la Mantova 5 è quella radiale in fibra, quindi se te la sta dando prendila, togli quella lì che c'hai e monti la Mantova 5 e vedrai la differenza. Avanti Marco. Sì, sono per l'ingrendi, per forza. Ah Claudio, dimmi. Ascolta, i radiali nella Mantova 1 e nella Mantova 5 come si fissano? Non ho capito, i radiali? I radiali, no? Nella Mantova 1 e nella Mantova 5 come si fissano? Come si mettono? Come sono? Ad avvitamento? Con piastra? No, sono innesto in una fusione praticamente a 5 fori praticamente che sporgono, fusione in alluminio, quindi è tutto un mozzo intero, a differenza della Mantova 5 che c'è una piastra e una contropiastra, vanno appoggiati e poi vanno messo la vite sotto. Qui ti entra direttamente non lo so quanto, 5 centimetri, non lo so, non me lo ricordo. Vanno all'interno e c'hanno una contro, porca miseria. Praticamente è rivestito in rame, entra dentro e poi da sotto c'è la vite autofilettante che regge bene, perché va a bloccare proprio, va a toccare in fondo al foro, va a toccare, c'è il posto proprio dove l'ha visto il tofinettante blocca e non lo fa più muovere, capito? È favoloso il montaggio della 1 e della 5 a differenza della turbo. Lei è per saperlo, e la turbo com'è? Perché la mia è piastra e contropiastra, no? Tu infili radiale di 10 cm nella mia che la... e poi fissi la piastra di sotto con varie viti. La turbo non so come sia, anche le foto non sono così dettagliate da farlo vedere. Ah, la turbo c'ha questa piastra tutta a vitine e scivrazzigheglia, si marcisce proprio, capito, tutto quel sistema. È un sistema sbagliato, perché lì bastava fare il moto unico con gli innesti direttamente a entrare del radiale in alluminio e poi fare il foro passante e mettere le vitine, quelle fini, con il bulloncino passante. Allora veniva un sistema molto, molto più robusto. Ma lì come appoggiano i corvi, i piccioni, adesso ci sono in giro anche i gabbiani, no? Perché l'altro giorno ne ha trovato uno in punta al sistema della direttiva, al tralicetto, capito? Pusato, e quello pesa, è un uccello abbastanza pesante, ma si siede e rimane fermo. Il problema è quando parte, che dà la spinta con i piedi, ti spezza tutto, ti spezza i radiali, capito? Non è il caso delle direttive, perché sono abbastanza grossi i radiali della che fa la PKW, ma i radiali delle antenne così in alluminio, tipo la Mantova, tipo altre antenne, sono fini, quindi un uccello di quelle dimensioni te lo spezza, perché l'innesto che c'è dove tu vai a stringere è molto debole, non ha sostegno, capito? È libero e quindi si spezza proprio lì dove tu vai a mettere la vite. Una vite autofilettante c'è, cioè, se ci fosse stato magari un bulloncino passante con un rinforzo almeno di 10 cm e poi giusto intorno alla piastra e poi il radiale libero anche vuoto, non l'avrebbe spezzato, si spezza proprio lì dove c'è questo innesto che è molto debole. Claudio, sì, la Mantova turbo ce li ha passanti i radiali, capito? Tu innesti il radiale è bucato con un forellino, con una vitina piccola, c'è il dado, cioè infili la vite e sopra c'è il dado. Però quando tu, una volta che il radiale è già forato da questa vitina autopassante da una parte all'altra, lì è che indebolisce parecchio. Esatto, Massimiliano, mi hai capito al volo, è lì che si spezza. Se quel pezzo almeno di 10 cm dove è già forato fosse stato pieno, no? Praticamente entra nella piastra, va abbassante, cioè, e fosse stato pieno, e almeno un altro pezzo a 10 cm fosse stato pieno, lì non si rompe, invece si rompe proprio lì, perché flette lì, o si piega o si rompe, mi hai capito al volo, e lì lo sbaglio, capito? Voleva rinforzato proprio in quel punto dove il radiale innesta e c'è il foro passante. Sì, ma poi io ho chiamato a turbo, non arrivo preso a chi è turbo perché c'è auto radiale in alluminio, ma a me mi sembra che la 1 e la 5 sono a pari livello, secondo me. Allora, la differenza è, questo te lo posso dire perché io l'ho usata, allora, la differenza è che la Mantova va da 26 sino a 28 800, così è abbastanza, insomma va bene da 26 a 28, mentre la Mantova turbo oscilla dai 25 ai 30, quella è la differenza. Bella, però secondo me c'è troppo eco, dovresti leggermente abbassare poco di eco, secondo me. Massimiliano, ma forse è più vicino a te. Anch'io l'ho detto, troppo eco, deve essere appena accennato. No, là, io ti ripeto, la modulazione è bella squillante adesso, prima era proprio cupa di brutto, però secondo me c'è troppo eco, secondo me è a mio orecchio. Vabbè, dai. Così va bene, è la tua. così, se ti ha detto che va bene così, io giro, Asedo Kenny. Magari era 4, l'hai messo a 3, lascialo così. Aspetta, fagli sentire anche lo ZG. E dai, cosa ti costa? Cambia al volo questo microfono. Aspetta, però. Attenta a questa differenza, senti quella, senti questa. Senta, ecco, lo ZG, quello da Palmo. Beh, l'M, casetto, mi pare che ce l'avevo anche io, quello che mi sembra ci abbia anche il BP, quel microfonino. Mi sembra sia un M93 giallo col pulsantino, ma grigio col pulsantino giallo, una cosa del genere. Esatto, senti. Eia, mamma mia, mi ha piatto. Va bene, sì, cosa è vuoto a bucare il microfono pure l'altro? Sono in onda, mi piace più questo, la verità si ricca. Sia mio. Questo non è male, non è male, Massimiliano, ma io non riesco a decidere qual è il migliore. Boh, questo c'ha un bel riacuti, è bella, eh. Questo è di Marco. È bello. No, ma non perché è di Marco oggi. Questa la radio è molto, molto, molto più bella. Te la fa per la tua voce, che ce l'hai molto... come si può dire, la tua voce è un po' barattolosa, capito? Questo ti fa un po' di medio alti, è molto più bella la radio, ma manco vicino alle mie DM1000. Ma dove l'orecchio? Ciao, ciao, per essere coso, ti rubo un pareggio, un M93, e così tra tu e l'altro. Comunque, Massimiliano, chissà perché anch'io preferivo il mio, più toni alti, più squillante, non so come spiegarmi. No, no, fa proprio la radio più bella, capito? Poi lui che ha il viso di parlare un po' in fretta, capito? Sta sempre a bordo a voi, l'eco lo accavallami. Deia. Sì, quello è lo ZG M95, che ha solo il bip in più, il bip doppio, capito? È bello, ma deciderà lui, dai. Poi a me questo eco, non mi piace, non ce la faccio. Ciao, ciao. Allora, io ti ho dato il mio parere. Io ti ho dato il mio parere, poi... Tu, la tua è la radio, la tua è l'M1000. Usa quello, però... Se devo sentirti con un DM1000 o con quello di Marco, preferisco quello di Marco, perché si sente proprio l'amplificazione bella del microfono e la radio proprio bella che spinge. Poi ognuno c'è sui gusti. Vittoria! No, ma non perché il tuo è, attenzione Marco, non è che sto dicendo perché il microfono è il tuo, perché è proprio il tipo della radio che con quel microfono si addice alla sua voce, capito? È proprio più bella la radio. Sì, a me piace più quella, gliel'ho già detto. No, Claudio è per il DM1000, lui piace più, i toni bassi gli piacciono più a Claudio, capito? Invece a me i toni un po' più alti, sai, soprattutto quando uno è basso, con i toni alti risalta di più. Vabbè, dai, vedrà lui. Ok, vai Claudio. Sì, sì, ma è così, quindi... Anche Massimiliano è del tuo parere, ma io sono d'accordissimo con voi, è un'ottima radio, va bene, qualità prezzo, diciamo che è un microfono che si addice a quella radio, però non è neanche così malvagio il DM1000. E rispetto a prima ha migliorato, altro che, ha migliorato molto, ok. Benissimo, vai Massimiliano. Secondo, questo foto mi hai mandato, che cos'era, la tua antenna? No, allora ti ho mandato la bobina dell'antenna che ha Antonello Di Orsi. Lui ha preso, dopo aver avuto, la mezz'onda come la mia, che però gli ha dato problemi. Ha preso una Siri 827 che è grossa quanto la Mantova, pesa quanto la Mantova e ha quella bobina lì a vista. Poi i radiali credo che si avvitino in quei fori, credo, E capì? Via. A te piace quella bobina? No, ti piace, dai. Aspetta, che ci avevo un altro messaggio, e stavo guardando il tuo e poi stavo ascoltando. Ma sì, molto, molto robusta, cavolo, ma non capisco che antenna sia. Questo sistema qua, a prescindere da questa, dall'attacco fatto così, ce l'ha sotto la Mantova, no? Però il sistema degli radiali, il mozzo praticamente, è simile a questo, della Mantova 1, della Mantova 5, capito? Ricordati, la Sirio fa molti modelli, quella è la Sirio 827. Sirio 827, molto interessante come sistema, anche una bella bobina, tutta in rame, a differenza della Mantova che c'ha il filo, penso che sia da un millimetro. Aspetta, una bella bestiolina, ma è grande come antenna. Come la Mantova, proprio grossa, pesa lo stesso 5 kg o più, è una bella antenna preso. Perché la Sirio ne produce sottili, produce quella uguale alla mia, produce quell'altra Tornado che è sottile, quella è grossa e poi vendono anche quella con l'antioncino trasparente dove vedi la bobina, no? Che però non gli è piaciuta con l'ampioncino, capito? Di plexiglass trasparente che mantiene la bobina, ha preferito questa. Claudio? Sì, Massimiliano. Ti faccio sentire un messaggio, ascolta bene. Ok, ringrazio la Gianni, poi ci vediamo. Capito? Te l'ho spiegato. Ho altre cosettine che devo fare. Comunque non c'è problema, devi stare sereno. Grazie. Kappa, va bene, va bene. Quando vuoi, con chi vuoi, con me, con lui e con gli altri, non ho problema. Kappa. Te lo prendi se c'è lo spinottino a 4. Ti lo fai piano piano, t'appenti. Sì, ce li ho lo spinottino a 4, 1, 2, 3. Quando mettete la macchina, quando sali a Sassari, se riesci a passare un po' prima, magari col tuo aiuto ci riesco più in fretta. Abbiamo 5 minuti, se la torre già ce l'ho, c'è tutto e proviamo a vedere se riusciamo a collegarlo al DAC. Va bene. Dai ragazzi, io vi saluto. Sono già a meno 25 che iniziamo a vedere se bolle qualcosa in pentola qua. Inizia un po' a bimbe la bitorra. Vi saluto momentaneamente. Chiudo blu, più là. Ciao Claudio, Marco, Genio e tutti quelli che sono in ascolto. Buona serata e buona continuazione. Ciao Massimi, quando vuoi lo sai. Io sono sempre a casa, quindi. Puoi salire anche uscendo al lavoro se vuoi, non ce n'è problema. Te lo metti in macchina, passi e ci proviamo a vedere se riusciamo a farlo e tu hai la mano più ferma. Tanto sono 4 figli da attaccare. Va bene, ti saluto, saluta Daniela, un bacio a Gaia, ci sentiamo, vai Marco. Eia, ciao Massimiliano, buona serata, buon tutto. E ci sentiamo le prossime. Sì, vabbè Claudio, volendo vendono anche una gabbia antifischio per i radiali, o per meglio dire un tondo di plastica che serve a tenere fermi i radiali in modo che il vento non li sballotti troppo, capito? E sono in alluminio i radiali. C'ho un'altra foto, però non è molto dettagliata, quindi non te la mando, dai. e ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 radiali. No, no, ma mi ha colpito molto il sistema, che secondo me è anche più robusto rispetto alla Mantova, quell'avvolgimento in rame, perché ti ripeto, la Mantova c'ha questo avvolgimento in un filo praticamente, è un filo, bravo, penso che sia da un millimetro, non è più grosso, che poi va a entrare sotto e va a collegare sotto dove c'è il PL. È molto, molto, insomma, spesso capita che si stacca e quindi devi togliere le reti, riavvolgere tutto, risaldare eccetera, mentre questo mi sembra un sistema molto più fatto meglio sicuramente. Va bene, metterò conto di questa antenna, perché vabbè, la Mantova mia è nuova, è già tre anni, non funzionata anche da poco l'avevo abbassata per pulita e insomma adatta a una sistemata. Adesso anche quest'anno appena vado in ferie l'abbasso, non ho la passata di acciaio, la luce va bene, ho svito tutto, la pulisco e poi la rimonto, perché se le metto il grasso nelle viti dei radiali e il grasso una volta che poi ha vitto il PL. Ed è sempre bella ordinata. No, ma io la Mantova non la cambierei con nessuna antenna, non c'è Cristo, un'antenna eccezionale, robusta, tiene molto il vento, le raffiche, ma soprattutto la Mantova 1, la Mantova 5. Io considero che per l'altezza che ho, il vento che ha fatto, i due venti hanno fatto ultimamente sia il grecale che il maestrale, ma assolutamente manco mossa, non ho tirati, non ho niente, c'è un tubo d'acqua da un pollice e mezzo, da 4 metri, che è un metro e mezzo, sono staffati a muro, il resto escono fuori, quindi non è neanche alta, niente, però è molto robusta, non la cambierei con nessuno la Mantova, assolutamente. Oggi la notizia che io ti devo dare con tutta franchezza è che tu dalla posizione che usi il furgone arrivi più forte di radio e di segnale di casa tua, è attento. Io vedo e dico, la radio c'è un abisso da quella di casa tua a quella del furgone, molto più forte quella del furgone adesso, eh. il segnale siamo lì, non capisco perché. Marco, tu l'hai notata sta cosa? Vabbè, non ci ho badato, Claudio. Diciamo che è forte, potrebbe sembrare da casa, sì, quello sì. Con tutte e due la radio di quel furgone che hai adesso rispetto a quella di casa tua, con tutte e due i microfoni, è più forte e il segnale è molto ma molto vicino. Io avevo fatto come ti ha detto Massimiliano, sinceramente parlando, mi avrei messo il superstar a casa con il DM1000 e avrei messo l'Uranus col microfono, con il ZG te lo compri, perché sicuramente funziona bene anche con l'Uranus, e l'Uranus me l'avrei messo nel furgone. È fortissima quella radio, veramente esce molto molto bene. Ricordavo, pensavo avesse il frequenzimetro e il cambio canali manuale, invece sì, è down e up, quello avanti e indietro, è un sistema più da casa, quello là è simile a un base, va molto meglio, là. No, non lascia tutto così. Poi ti ripeto, oggi, sempre per quello che io penso nei confronti degli altri, poi ognuno fa quello che le piace, però per casa io avrei preso un bel base 220, tipo un Galaxy Saturn Echo, ma anche un vintage, insomma, di quelli che hanno un po' di canali, con un bel microfono da tavolo, e non hai problemi. Questo è il mio parere, per carità, poi ti ripeto, ognuno fa quello che vuole, però a casa se ti metti un bel Galaxy Saturn Echo che c'ha già molto più watt, arriva sino a 10 watt modulati, con un bel microfono da tavolo, anche quello che hai per me si è arrivato, sia nel camper che nel furgone, c'hai due belle radio, vai bene, per me si è arrivato. Quindi pensaci ancora, devi fare un altro sacrificio, un bel base a casa tua, e l'Uranus o te lo vendi o te lo tieni di scorta, non lo so. Ma il cambio ti viene un po' in salita, cioè, perché un garassetto meco non lo trovi meno di 200 euro, perché se li vale tutti, io ce l'ho anche sotto mano, capito? Io ce l'ho anche sotto mano, 200 euro, bello nuovo, però devi venderti quello almeno un centinaio di euro per poter poi compensare a comprarti l'altro, capito? Però se ti mando io a comprare un Galaxy Saturn Echo è come te lo stai comprando dal negozio, nuovo, mai toccato, nuovo, originale. Beh, si può fare, guarda, quello Uranus 120 euro te li danno al volo, perché è un bellissimo baracchino, è completo di tutto, poi è un digitale vero e proprio, capito? Perché non ha mano poi il canale, fa come un sintonia continua, è molto bello, te lo dico perché era il mio, quindi è molto bello, quindi quel prezzo se li vale tutti. Vedi un po', se riesci a darlo, aggiungi una fesseria e ti porti a casa un bel Saturn Echo che ti consente di avere di tutto e di più, senza avere problemi, né strumentini, perché quello c'ha tutto, ha canali, ha UFA, FM, SSB, di tutto va, capito? Quindi a 150 euro, ti ha già detto 120 e tu ci stiamo mettendo a 150. Non so, ci proviamo. Claudio, rispondi. Eia, Claudio, se mi senti, non leggere il link sopra, ho sbagliato, devi leggere il link sotto dove c'è scritto https://youtube.be, ok? E ti fa vedere il video di quell'antenna, vediamo se riusciamo. Ma a me l'Uranus non serve, dai, cerca di venderlo invece, vendilo, prova, mettilo anche su eBay, una cosa del genere. Claudio, mi si è perso, mi ho mandato due collegamenti. Ciao Eugenio, dai, buona serata, buon tutto. Claudio? Ehi. Guarda, di quei due collegamenti, guarda quello sotto solo. Quello sotto piccolo, il collegamento al video, l'hai visto il video di quell'antenna? Sì, lo sto guardando. Gaffa. È interessante come antenna, dai, un'alternativa alla Mantova, diciamo. Cosa vuoi che ti dica? No, Massimiliano mi ha mandato un altro messaggio. Ehi, guarda che Eugenio ha chiuso, ha appena chiuso. Sì, l'ho salutato, no? Boh, ciao Eugenio, ci sentiamo, alle prossime. Era un po' preso da questo cacchio di video. Una cosa che... No, ma è fatta veramente bene, veramente. È fatta bene questa antenna. Quanto costa? Guarda, i prezzi in realtà non li so, proprio i prezzi non li so, Claudio. dovresti vedere su internet, Sirio 827. Sirio 827, Sirio 827, guardo, adesso mi ho voglia di accendere il computer perché fa un po' si cena. Però, ma guardo sì, prendo degli appunti perché si è fatta veramente bene, ci picchia. Penso che non costi quanto la manco, è fatta bene, l'avvolgimento è fatto veramente bene perché in rame il sistema radiante è praticamente simile a quello della Mantova come innesti dei radiali, nonostante ne abbia 8, capito? Ma credo che siano avvitati, vero? Sono avvitati quei radiali. Non so se sia valida come... Ma immagino di sì, no? Se si avvitano non si dovrebbero togliere, li metti un po' di grasso, quello che è. Mannaggia, non mi fa navigare, se non ti avrei detto i prezzi all'istante, dai. No, Marco, non penso che sia... Lo sto riguardando bene, ingrandendo il fianco, fammi vedere. No, non sono avvitati, vedi che sotto c'è il coso per la vite. Sono lo stesso sistema della Mantova, va innesto e sotto ci va la vite che lo mantiene. E l'innesto lo vedo da qua. Lo sto ingrandendo. No, ce n'è filettatura. È lo stesso innesto. Preciso identico della Mantova, entra tutto dentro, sicuramente i radiali ci hanno qualche rinforzo come quelli della Mantova e poi sotto ci va il bulloncino, da qui tutto filettante. Quello è un bel sistema, perché i radiali sono in fibra lo stesso. A me sembra in alluminio, nel video, a me sembra alluminio, non sembra in fibra mica. Non c'è che no. Io e altri me lo prendo, ma avevo chiuso, adesso lo sto riaprendo. Eccolo qua, sì. Comunicazioni 129 euro. Tecno Comunicazioni 129 euro. Ma quanto la Mantova costa? Ma è una bella bestia. Sono in alluminio, 8 radiali in alluminio. Però se l'innesto è uguale a quelli della Mantova, io in alluminio non gliene metto il radiale, gliene metto 8 in fibra. Ma lo sai quanto costa da FLQ Elettronica, che è un po' caruccietto? 159 euro, io ho esagerato però, non costa così, Antonello non l'ha pagata così. 159 euro, anche un pareggio di Gattina per la 27. Allora io la Mantova, ordinata, compresa il trasporto, portata a casa con Bartolini, mi è costata a Mantova, quindi dove la fanno, ok? Dove la fanno? Mi è costata 108 euro. Beh, ottimo, però dalla fabbrica proprio l'hai richiesta. 108 euro è un prezzaccio super, c'era a comprarne due, mie, una a tenersela. Sì, perché in quel tempo un carissimo amico, non dico il nome, trasportatore, che appunto si trovava lì a Mantova, mi aveva chiamato e mi ha detto: sono a Mantova, ma vuoi che ti serve qualcosa, soprattutto antenne? Ho detto sì, mi serve una Mantova. Mi ha detto: va, sono davanti allo stabilimento, se vendono al dettaglio te la compro subito, immediatamente te la metto in cassone e te la porto giù io, ok? Invece al dettaglio non vendevano, la dovevi ordinare. ordinare. Allora lui l'ha ordinata, gli ho dato tutti i miei dati, ok, e lì nello stabilimento costava esattamente 95 euro, 95 euro. Qui mi hanno messo 12, può essere 108, da 95 a 108 quanto fa? Più o meno dai, 105, sì, sì, 13 euro di spedizione. Esatto, 12, 13 euro di spedizione, appunto, con Bartolini, ok? E mi è arrivata a casa per 113 o 112 euro, compreso di trasporto, 108 euro compreso di trasporto, quindi costava 95 euro, compresi i 140 euro che se la fanno pagare qua a Sassari, chi la prendeva. Perfetto, hai avuto un culo, guarda, stratosferico, ottimo, sempre meglio della Turbo, perché dice che le primissime erano ancora fatte meglio, ma più vanno e più la fanno scadente, lo sai, dei materiali. Come infatti avevo detto Mario, che tra l'altro non ci mi chiesto, non sa più entrare, ho detto la Mantova 5 era lì al telefono con me, mi ha detto se vuole abbiamo anche la 1, e mi ha detto la 2 e la 1, piglia subito la 1, ordinami la 1, ordinami la 1, gli ho detto, ordinami subito la 1, e mi ha ordinato la Mantova 1, quindi non so se era ancora in produzione, però in stabilimento c'erano sia le Mantova 5, le Mantova Turbo e la Mantova 1, e poi altri tipi di antenne che fa la casa costruttrice naturalmente lì a Mantova, capito? E mi ha ordinato la Mantova 1 a 95 euro, 108 euro compresa di trasporto, ma la sfortuna mia è stata che purtroppo lì al dettaglio non ne davano, solo a chi aveva la partita IVA praticamente, in quantità, però così al dettaglio non vendeva. Dice, per non creare problemi all'azienda possiamo solo far finta che ce l'hanno ordinata da fuori, lei non è qua e quindi le la mandiamo. E così è successo. Se non l'avrei pagata 95 euro se gliela davano lì, capito? Sì, sarebbe stato ancora meglio. Vabbè, comunque non ti puoi lamentare, dai, a trovarne ancora le Mantova 1, ma anche Mantova 5. Bene, beato te, dai. Guarda, io avevo due piantoni di Mantova 5, nuovi. Uno l'ho fatto, mi sono anche pentito, l'ho fatto, capito? Per poi essere trattato per 5-1. Adesso ne ho un altro di piantone, che mi ha dato Gianfranco, che mi ho tutto pulito, ordinato e messo a posto, ok, perché lui si è cambiato l'antenna, quindi l'ha spezzata ed è rimasto il piantone. L'ho tutta sistemata, pulita e reata, l'ho fatto nuovo, me lo sto prendendo di scorta, già con la molla attaccata, tutto. E non lo copio a nessuno, beh, di manco va 5. Intanto più cose dai, più aiuti la gente a bucanire a mezz'ora a mezza e poi vanno a fare gli infami, capito? A sparlare e a dire coglionate Ciro, quindi ho finito di regalare le cose alla gente, mai più in vita mia, di nessun tipo, ma non che veramente non sia una persona che merita, se no a cagare. Giusto. Io, ma insomma, adesso basta. Ok, e comunque io ce li ho, su, mi ho fatto pulizia da poco perché sto iniziando a togliere un po' di roba che voglio finire questa estate, voglio insomma rendere un po' più abitabile sulla Mansarda. Capito? Per ogni evenienza, insomma, per qualsiasi cosa, quindi anche l'altro giorno ho chiamato un camioncino, c'era ancora roba che ha fatto portare via un po' di roba, capito? Ma c'ho ancora roba interessante, c'è una direttiva per i simmetri, che era autocostruita come ha fatto Antonio di Monteoro, che si è spezzata in due, ma si basta rimettere il boom a posto, è già tarato, è tutto ok, dovevo dare a una persona che poi la butto la mondetta, la faccio a pezzi, ma lui non prenderà mai più niente da me. Nome di merda. E poi facciamo un bel po' di roba, alluminio ne ho un bel, anche per costruire un'antenna, volendo. Poi c'ho un altro rotore piccolo che avevo tolto, cioè ne ho materiale su, ne ho abbastanza. E sto un po' sistemando, mettendo a posto tubi, tubicini, tubi telescopici, tubi blindati, insomma, un bel roba. Ho messo tutto l'angolino, ho fatto uno scaffale, ho messo tutto l'angolino, capito? Cavi, c'è un bel po' di roba ce l'ho. E c'è anche questa moto che mi ha dato, questo piantone della Mantova 5 che mi ha regalato Gianfranco. Stavo buttando via, ho detto non buttare niente, che quello è oro. Quando si sfascia qualcosa, c'è un piantone di riserva, capito? Radiali della Mantova ce li ho. Infatti le ho anche a Gianni quando vuole fare quel lavoro, alla fine poi si può anche fare quello che stavo pensando di fare, togliere quel piantone che c'ha Gianni, visto che è tutto modificato, mettere il piantone originale e infilare i radiali nuovi in fibra. Ehi, vedete voi, ma sento roba sotto, c'è propagazione, sento rumori, portantine. Sì, c'è un po' più altino il QRM, sì, un po' più altino il QRM, evidentemente è salita un po' la topazza, ma non me ne accorgo perché c'ho tutto spento, insomma, con l'HF me ne sarei accorto subito dal grafico della radio, non essere accorto, perché stasera era molto basso il grafico, non è che c'era molto. Va bene, dai, un altro passaggio Marco, e poi sono già le 9, oggi siamo trattenuti un po' di più, anche perché mia figlia era giù con la ragazza che stavano chiacchierando. Salito Filippo, Pippo! Ma c'è il vero padrone di questo cane, è tappato. Aspetta, che a me era falso, l'aveva sentito Gianni, o qualcuno chiamare bassissimo. Gianni, sei tu? Allora Gianni, purtroppo Radio 1 c'è un po' di propagazione che arriva a Santiago 4, tu sei Santiago 5, non si capisce quello che dici, ma si capisce che la voce è la tua. Non lo senti tu, Claudio? Oh, se mi senti già, non ti ascolto proprio, non ti ascolto, c'è come quasi propagazione, sento segnalini, rumoretti sotto. Dai, se ti riteniti salutato, dai già. Che Claudio tanto sta andando a mangiare oggi. Claudio, sei andato già? No, assolutamente, non me lo farò qui. Gianni non lo sento io qua, mi è salito un po' il QRM e non lo sento. Quindi già, se mi ascolti ti chiedo scusa, ma no, non ti ascolto. No, non si capisce nulla. Oh Claudio, si è parlato questa volta, non l'ho sentito. Sì, sento un po' segnalini, sicuramente sta salendo la propagazione. Per esempio, Gianfranco, ci sei? È ovvio. Ascolta, tu che hai una ricezione buona, la senti questa propagazione? Sono qua, ci aspettare da poco. Buonasera. Tu hai detto un po' tardi, io ho la cena nel piatto, vai, vi devo salutare. Ciao Gianfranco. Magari se Marco vuole fare ancora due chiacchiere ti lascio in sua compagnia. Ciao anche Gianni se mi stai ascoltando, Natalino se all'ascolto, un saluto circolare a tutti, dai, io chiudo che è pronta la cena. A domani signori, a te Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buona cena, buona serata. Sì, c'ho un pochino di preparazione. Sì, piccoli segnali, sai, qua non li distingo perché l'apparato non permette di distinguerli, magari col tuo sicuramente lo sentirai meglio. Eia, Gianni, va bene Claudio, buona cena, buon tutto, dai, oggi siamo stati anche molto, dalle 5 in poi. E, diciamo anche Gianni, col portatilino, magari Gianfranco ti sente meglio, prova a parlare Gianni, no, forse è andato via, era col portatilino in giorno sua, solo che quei portatili di oggi, Gianfra, non c'è storia, c'hanno questi antennini caricati ridicoli. Non sono come quei bei portatiloni con l'antenna da un ottavo d'onda lì, 1,30 m, quant'è? Anche quello è un ottavo d'onda, sì. Così mi hanno detto. Quei portatiloni di una volta, no? Anche un quarto d'onda. Sono 11 metri diviso 4. Poi c'hanno la carica, eccetera. Io ho sentito un bip. Gianni, sei tu? No, lui non ha bip. Lei, no, non arriva proprio anche a prendere tutto lo squash. L'avevo sentito per un attimo, capivo che era lui, ma la radio era uno, troppo basso, dai, oppure è troppo alto, diciamo, il coso oggi, poi di propagazione. Va bene, Gianfra, anch'io sono cotto, siamo tutta la sera in radio quasi, quindi mi ritiro in buon ordine. Questo setto nasale deviato è una cosa allucinante. E sentiamo domani, dai. Ciao a tutti gli ascoltoni, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao Gianni, se ci ascolti.